Cari amici ascoltatori di podcast, benvenuti a questo ennesimo nuovo podcast a carattere videoludico, dato che, come ho letto su tanti forum di podcast sui videogiochi, ne sbucano fuori come funghi. Abbiamo pensato che anche noi non volevamo essere da meno, quindi il gruppo di Italian Podcast Network si è unito al gruppo di Retrocast, così come sapevamo che un giorno sarebbe successo questo matrimonio. Purtroppo so cose che evidentemente sono scritte nel destino, non ci dobbiamo assolutamente stare, e nasce questa nuova trasmissione che si chiama Dietrologia Videoludica. Ora, prima di entrare nel vivo della trasmissione e cercare di spiegare un attimino di che cosa si tratta, che poi un attimino non si dice, diamo subito i riferimenti della trasmissione, quindi il sito, quindi ci troverete il podcast e alcune delle nostre riflessioni riguardo ovviamente al mondo dei videogiochi su dietrologiavideoludica.wordpress.com, che è un sito facilissimo da ricordare e soprattutto molto breve da digitare, quindi prima o poi troveremo sicuramente una soluzione. Abbiamo ovviamente anche un Twitter che prima o poi ve lo diremo, perché ancora c'è una diatriba sul come funziona il Twitter, ma abbiamo dietrologia videoludica@gmail.com, che è la mail con la quale potete tranquillamente mettervi in contatto con noi. Ma chi è che farà parte di questo podcast e quindi mi farà compagnia in queste discussioni di approfondimento sul mondo dei videogiochi? Il primo, giusto perché mi sta accanto, ma soltanto per quello, abbiamo Marco Gualdi, il distruggitore. Grazie, ciao Marco. grazie, sono emozionatissimo. Ti sente? Sì, perché hai portato la bottiglia a tirare per il varo. Ma sono bevuta prima. Te la sei già bevuta. Che pensavo fosse da per bere prima per avere più sprint, non ho capito la cosa del varo, scusa. Il grande, l'immenso, l'incommensurabile che noi amiamo tutti e con il quale ogni tanto cerchiamo di fare anche l'amore tramite posta elettronica. Lo abbiamo idolatrato in tutte le maniere, abbiamo anche aperto una fanpage che ovviamente però non stiamo coltivando come dovrebbe essere. Il mitico grande Luigi Marrone, anche detto Doc Brown. Ciao a tutti, ovviamente hai dimenticato un aggettivo, l'addormentato. Ultimamente l'addormentato, sono molto addormentato, questa... quindi se vi piace fare l'amore con un dormiglione, ecco, insomma. Vabbè, è meglio, così non uno fa quello che gli pare, insomma. Direttamente dalla Sardegna, dal posto che non è né al nord, né al centro, né al sud, abbiamo il nostro mitico Big Joe, anche detto Stefano Biggio. Ciao Stefano. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, ringrazio Stefano in anticipo per l'opportunità che mi avete dato. Bene, perché dopo non si sa che cosa succederà, quindi intanto ringrazio. Grazie, no, inizio a ringraziare per l'opportunità che mi viene data. Tu sei una persona educata, quindi... Sì, ormai mi conoscete, ci conosciamo, possiamo anche fare un podcast assieme senza per questo, insomma, creare dei disguidi interstellari, ecco, qualunque cosa questo voglia dire, ovviamente. Comunque. Ok, allora, guarda, per non tediare troppo i nostri ascoltatori, come facciamo sempre con Archeologia Videoludica, che abbiamo un preambolo che dura circa la metà della trasmissione, diamo la parola un attimo a Marco per cercare di spiegare in sintesi, notare tra virgolette in sintesi, di che cosa si tratta dietrologia videoludica e di cosa parleremo in questi episodi di questo simpatico nuovo podcast appena arrivato. Beh, innanzitutto il titolo all'inizio doveva essere supercalifragilisticexpialidoso, però era troppo difficile, abbiamo deciso di chiamarlo Dietrologia Videoludica, che è molto molto semplice. Questo podcast di nuova concezione praticamente parlerà sì di videogiochi contemporanee, però cercherà, come si vedrà anche dal logo immagino, di sfruculiare il lato B dei videogiochi, quindi non tanto di parlare del gioco, della trama, dei nostri personali favori, se ci è piaciuto o meno, ma di cosa ci può essere dietro al videogioco, ma non solo al videogioco, anche magari alle software house o alle notizie che sempre nell'ambito videoludico possiamo andare a raccimolare a destra a manca su internet e non. Quindi parleremo comunque del mondo dei videogiochi, dei giochi, delle software house e via dicendo. Quindi il, cosiddetto lato B dei videogiochi, cioè quindi la parte oscura dell'industria dei videogiochi, cioè tutto quello che a noi fondamentalmente non piace in merito ovviamente a questo che ci fa discutere, quello che ci fa discutere esatto. Animatamente. Ok, allora entriamo subito nel vivo. Ok, per entrare nel primo tema di discussione abbiamo deciso di lasciare a Stefano l'opportunità di leggere l'introduzione di questa puntata. Abbiamo fatto questa scelta perché sappiamo che Stefano fondamentalmente non sa leggere e quindi volevamo metterlo ancora più a disagio. Sì, io confermo che ho appena imparato e lo vedrete dagli strafalcioni che farò leggendo. O hai appena insegnato anche. Me l'hanno appena imparato, diciamo. È stato appena imparato, quindi lasciamo... Vai. Allora... Quindi in questo episodio, il nostro primo episodio, parleremo di due punti: il finale di Mass Effect 3, bello, brutto, ma soprattutto è giusto che i fan ci mettano becco e pretendano di cambiarlo? Perché una software house deve essere costretta a giustificare un prodotto? Nel caso specifico, ce n'è davvero bisogno? In alcune teorie complottistiche... Pardon, vorrei leggere l'ultima frase, come potete... In più, alcune teorie complottistiche sostengono che tutta questa storia del DLC chiarificatore serve solo a fare pubblicità e a minare il mercato dell'usato. Questo è ciò di cui più o meno discuteremo oggi. Ok, però, siccome che molti degli nostri ascoltatori staranno già dicendo che palle, già si riparla un'altra volta del finale Mass Effect, in realtà noi abbiamo... indicato nella scaletta dei punti sui quali ovviamente vorremmo andare a sviscerare un po' quelle che sono le nostre opinioni rispetto a questo tipo di discorso. Io partirei direttamente col botto, cioè nel senso da Luigi, perché poi c'ho anche paura che mi si addormenta perché è una certa ora preso pelo, infatti guarda, ho sentito il mio nome, ho detto ok, sono io. Okay. Chi è questo Luigi? Allora, per discutere di questo argomento, Luigi, secondo te noi possiamo attribuire prima di tutto ai videogiochi un valore autorale, un valore registico, una proprietà appunto autorale rispetto al non soltanto rispetto ai videogiochi in sé, ma proprio anche in confronto anche, che ne so, al mercato cinematografico, nel senso che posso dire io, sviluppatore, di essere il proprietario e l'autore anche artistico di un'opera, di un videogioco, per quanto questo artistico magari tra virgolette, perché possa, insomma, non, nel senso artistico, insomma, è relativo, perché stiamo parlando sempre di opere che hanno comunque uno spessore leggermente inferiore di qualsiasi tipo di altra opera narrativa. Ma che i videogiochi abbiano un carattere artistico è innegabile, fuori di dubbio, perché sono delle opere d'arte a tutti gli effetti, sono in grado di emozionarci, di farci riflettere, di intrattenerci, di esprimere una visione del mondo e della vita, per cui non sono dissimili da tutte le altre opere d'arte che con mezzi diversi riescono a toccarci, a toccare le nostre corde più profonde. Che mi piace portare magari come esempio Hideo Kojima, uno dei più grandi, insomma, game designer esistenti, che parla di videogiochi come dei servizi, cioè per lui il videogioco non è un'opera d'arte in senso stretto, ma è un servizio che si fa affinché il mondo che e sia il mondo abitabile creato dal videogioco per il videogiocatore, creato da game designer, da una software house per il videogiocatore, è appunto un servizio che si fa per il videogiocatore. E quindi lui non parla, paradossalmente, proprio lui di opera totalmente autoriale, e dico paradossalmente perché quando andiamo a vedere i giochi di Hideo Kojima con la sua firma sotto, sappiamo che hanno un marchio contraddistintivo che ci rende molto diversi da tutte le altre esperienze che, di cui possiamo imbatterci. Quindi il discorso se sia un'opera d'arte o meno io lo lascerei perdere totalmente, perché immagino di aver già risposto. Che abbiano un carattere autoriale è qualcosa che non si può più facilmente, se vuoi, identificare, anche se lo andiamo a sentire quando giochiamo, perché il videogioco appunto ha questo carattere di servizio, come dice Kojima stesso. E poi non dimentichiamo che è un'opera che è legata alla produzione di tante personalità, di tanti elementi che concorrono alla creazione. Quindi senza adesso andare a scomodare il discorso Mass Effect, dico che non puoi parlare, secondo me, troppo di autorialità quando alla produzione di un'opera intervengono tantissime teste, ci mettono su tantissime mani, i lavori devono essere coordinati da tantissime persone e soprattutto c'è una timeline che ti obbliga a finire il videogioco in un determinato tipo di tempo. Ecco, che io sappia, un artista non deve avere la pressione temporale di poter creare se vuole rispecchiarsi nella propria opera, e i videogiochi questo non lo fanno assolutamente, tranne forse qualche software house più indipendente o che si può muovere più liberamente, che si controlla. Luigi, però posso interromperti un attimo? Sì. Questo discorso potrebbe anche essere fatto per la musica, perché poi tutto sommato alla fine è vero che c'è l'artista che suona, ma poi alla fine non è detto che non ci vengano anche lì messe mani, non è detto che anche lì venga costretto a far uscire un CD entro una determinata data. Pure lì ci sono queste pressioni. Sì, c'è per la musica, sono per alcune serie televisive. Tutto ciò che produce soldi. Esattamente, sì, ma infatti non è che dico una cosa vale più di un'altra o meno, lo senti quando c'è una sorta di pressione in un progetto e quando non sta più funzionando, cioè nel senso che ha perso quello smacco autoriale, se usare questo termine adesso, col forte carattere artistico, perché c'è un discorso commerciale che è entrato all'interno, che a volte funziona, a volte non. Io ne conosco pochi di artisti che sono rimasti fedeli a se stessi fino alla fine, perché hanno avuto il tempo, la possibilità di farlo quando hanno avuto una certa risonanza, perché poi le maglie commerciali ti imbrigliano, non c'è nulla da fare, cioè è così, fondamentalmente non puoi farci nulla, se vuoi campare, se hai raggiunto certi livelli devi stare anche a certi standard temporali di produzione, quindi non è un discorso legato al medium di cui si sta parlando, ma semplicemente al tempo di produzione che ti permettono quando entri dentro un determinato tipo di giro. Tutto qua. Allora, a questo punto, Luigi, poi passiamo all'opinione ovviamente di Stefano e poi a rotazione anche a Marco, però ti faccio una domanda perché mi è subito venuta in mente proprio dalla riflessione che tu hai fatto. Allora, innanzitutto, quando si rifiuta la paternità oppure l'autorialità, insomma, di un videogioco, non è perché comunque gli autori di videogiochi hanno paura, così anche chi ne parla, voglio dire, di videogiochi, hanno paura di prendere il videogioco troppo sul serio. E poi allo stesso tempo, voglio dire, sì, abbiamo detto tante teste, ma questo abbiamo detto anche che vale, come ha detto Marco, magari nella musica, ma vale nel cinema, vale nella televisione, in tutte le opere che comunque hanno una proprietà intellettuale, cioè nel senso, comunque Lost viene riconosciuto a tutti gli effetti un'opera di J.J. Abrams, per esempio, così come appunto Metal Gear viene riconosciuto come il gioco di Kojima, insomma. Quindi in linea di massima una proprietà, una provenienza, quindi un qualcuno, una paternità, esatto, un qualcuno che ha dato la paternità al progetto c'è, e siccome che nessuno per andare poi dopo magari al discorso che poi affronteremo più in seguito, nessuno gli viene in mente di mettere in discussione il finale Lost a tal punto, ad esempio, da costringere la Bad Robot o la Paramount o chi per loro a rimettere in discussione la macchina lavorativa per porre rimedio, insomma. Quindi, cioè, nel senso, secondo me comunque possiamo non considerarle opere artistiche nel senso alto, possiamo non considerarle opere autorali nel senso più alto, però sicuramente una paternità oggettivamente ce l'hanno, cioè c'è comunque una persona che dice io voglio fare sto gioco e si mette su una preproduzione, una produzione e poi chiaramente tutta una fase di post-produzione, così come nel cinema, insomma. Quindi le analogie ci stanno. Sì, assolutamente sì. E infatti io non è che non trovo analogie, è semplicemente che tu senti quando stai approcciando un'opera d'arte quanto possa essere autoriale, quanto possa essere invece controllato da un punto di vista, controllato per usare un termine forte ovviamente, produttivo, per quello che riguarda, faccio un esempio, anche lo stesso Mass Effect, se voi giocate il primo, giocate il secondo e il terzo, da quando è entrato ovviamente la distribuzione e quindi anche l'iniezione finanziaria a livello di marketing, a livello di standard produttivo, quindi di termini di risorse di Electronic Arts, il gioco sentiamo che è cambiato nella sua anima di fondo. C'è qualcosa, fino ad arrivare addirittura all'ultimo Mass Effect, che ha il multiplayer, che fondamentalmente, se ci andiamo a pensare, è un servizio che è stato fatto, è integrato poi all'interno del videogioco affinché si potesse allineare con quelle che sono ormai le produzioni attuali che vedono il multiplayer anche, non lo so, al gioco più stupido che ci sia ci deve essere il multiplayer, perché sì, perché oggi tira il multiplayer ed è uno standard. E cioè, questo mi fa pensare che è il sapore poi che il videogioco ha alla fine della giostra, del giro di giostra, che ti fa dire: ecco, c'è qualcosa che non poteva non esserci, però è arrivato a questo punto e si è andato a perdere quello che c'era all'inizio. Tipo, anche di, sai, so se conoscete Marlene Kunz come gruppo musicale. Sì. Quando nel 2000 hanno firmato per la Virgin, prima erano con consorzi produttori indipendenti, è subentrata la canzone con Skin, è subentrata tutta una realtà. Se vogliamo di soldi, di mercato, di distribuzione, ha snaturato l'anima di Marlene. Per quanto loro possano affermare era sempre questo che volevamo fare, o questo discorso della maturità, il disco della maturità, io non sono più riuscito a sentirli, per dire. Eppure hanno venduto tanto, poi, per intenderci, l'hanno conosciuti attraverso quest'altra anima, ma il concetto autoriale si è un po' andato a perdere rispetto al prima, quello graffiante, quello che ti faceva innamorare della sostanza grezza. Io l'avverto, sembra l'ultimo Mass Effect, che c'è questa patina di commercialità spinta, portata alla fine, fino alla fine esasperata, che per quanto ha migliorato il discorso, è una, anche cosmeticamente, visivamente, tutto il videogioco stesso agisce, non puoi non farla meno di notarla. E tu puoi dire sì, l'autorialità non si è perduta alla fine, cioè c'è una mente sotto che ha spinto il videogioco a queste conseguenze, quindi la sentiamo palpitare come anima, c'è, bello, quindi chi se ne frega di Electronic Arts, per intenderci. Tuttavia io la riconosco che c'è una sorta di pressione che doveva far uscire il gioco dopo 2 anni o 3 anni, quando è stato la data era quella, era stata stabilita, c'è tutta una sarà anche rimandata, sì, sarà poi rimandata, sì, scorso, e questo si è rispecchiato anche sul finale. Non so se si può parlare già adesso del finale, in questo momento della puntata. Beh, vabbè, boh, magari ci arriviamo, ci arriviamo con calma, nel senso, ecco, sentiamo un attimo pure Stefano, insomma, se ma allora io rispetto per collegarmi a Luigi, effettivamente anche io ho avvertito la differenza, nonostante io non sia mai stato un grande amante di Mass Effect, lo ammetto per il semplice motivo che l'ho giocato tardi. Ne avevo discusso a suo tempo con Luigi, perché io non mi capacitavo del fatto che Mass Effect non mi prendesse come gioco, nonostante avesse tutti gli elementi per prendermi, però giocandolo tardi, come dire, l'ho visto con un'altra ottica che non mi ha permesso di apprezzarlo in pieno. Però scusa, non tanto... giocavi le 2 di notte, com'è? Marco, questo mo cacci via però innanzitutto lo giocava tardi, che significa le 2 di notte? No, l'ho giocato svariati anni dopo l'uscita del primo, ho giocato il primo di molti molti anni dopo la sua uscita, poi ho provato anche gli altri, ma non sono riuscito ad appassionarmi quanto avrei voluto, e questo continua a darmi fastidio. Però sono da appassionato in generale di videogiochi, sono interessato a tutti, quasi tutti i videogiochi, compreso Mass Effect, e in effetti ho notato, quindi per ricollegarmi a Luigi, il discorso che il primo Mass Effect era un gioco, come dire, molto diverso per una serie di fattori. Lo trovavo un gioco molto più ostico, molto più, insomma, che cercava di coinvolgere persone che fossero davvero interessate a quello che dicevano, e che andavano oltre quello che era magari il sistema di gioco, che poteva essere migliorato, poteva essere alleggerito per certe cose. Quindi questo per collegarmi a Luigi. Poi personalmente, in generale, per quanto riguarda i videogiochi, io valuto molto i singoli casi, cioè certi videogiochi per me non possono essere considerati delle opere, insomma, dei videogiochi d'autore, diciamo. Cioè, per me... Beh, Mortal Kombat, per dire, non è che c'è tutto sto grande autorato. Esatto, magari Mortal Kombat cerca di sembrare, con magari con la storia, cercando di mettere degli elementi che ricordino giochi più profondi, anche nei picchiaduro, che non sono sicuramente l'esempio di un videogioco profondo. Però ad esempio, per me personalmente, un gioco di una simulazione calcistica o di moto, per dire, per quanto possa interessarmi il calcio o le moto, non è... Lì l'arte è più la tecnica nel riprodurre le cose. Esatto, esatto. Però, come dire, tolto quello non rimane molto, cioè essendo una simulazione magari, mentre in certe cose magari posso trovare più autorealità, ad esempio un Flight Simulator o un Combat Flight Simulator, che sono sempre delle simulazioni, hanno un loro, come dire, un loro mordente, hanno la loro forza che è tipica di certe produzioni. Combat Flight Simulator lo distingui da un cosa ne so, un MiG-29 Fulcrum, per dire, sì, perché giusto per citare un gioco recente, sì. Bellissimo tra l'altro MiG-29 Fulcrum. Giocato. Sì, un grandissimo. Pensa che io mi sono fermato a FA-18 Interceptor. Ecco. No, però in ogni caso, in generale, cioè, come il tipo di gioco di Combat Flight Simulator è riconoscibile, cioè ha dei fattori, degli elementi che sono tipici di quel gioco, come ad esempio lo possiamo associare secondo me a un film d'autore. Ad esempio Hitchcock utilizzava sempre una serie di espedienti nei suoi film, Woody Allen degli altri. Puoi riconoscere il gioco d'autore perché, come dire, ha una certa impronta e lascia un segno, ecco. Mentre invece magari il gioco un po' più creato per vendere è come per la musica, ci sono quei gruppi che magari vanno a Sanremo, vendono un sacco di dischi, 2 anni dopo non esistono più, e gruppi che magari ne vendono un decimo, però intanto continuano a lavorare da 20 anni a fare prodotti di qualità, ecco. Quindi io però, ripeto, mi baso sul singolo caso, cioè io prendo ogni singolo videogioco e dico questo secondo me lo provo, ovviamente, non è che cerco di evitare di parlarne esageratamente a vanvera e dico beh, questa secondo me è un'opera importante, un'opera che può lasciare qualcosa sia nei videogiocatori ma non solo. Faccio un esempio di Deus Ex, magari ha delle tematiche, Deus Ex o anche Binary Domain, nonostante Binary Domain non sia magari tecnicamente il gioco AAA come può essere appunto Mass Effect, però porta avanti un discorso che se sei un minimo interessato alla storia, oltre che allo sparare ai robot, è molto interessante. C'è una cosa di cui puoi discutere anche con persone che non sono appassionate di videogiochi, come argomento di discussione che va oltre, ecco. Cioè forse la capacità dei giochi d'autore è quella di andare un po' oltre se stessi. Questo più o meno. Ma sì, io guarda, l'unica cosa è che al di là dei videogiochi spiccatamente narrativi o con una forte predisposizione cinematografica, quindi quei videogiochi che sono nati proprio con quel tipo di impronta lì, in realtà il videogioco, come abbiamo detto, è un nuovo media, nel senso che comunque è un nuovo tipo di intrattenimento, così come il cinema intrattiene in una maniera, la televisione intrattiene in un'altra, però entrambi, soprattutto dal punto di vista commerciale, hanno comunque un'impronta produttiva molto similare, perché comunque parliamo di grossi team, grossi budget, grosse influenze produttive, chiaramente, proprio anche per le scadenze e tutto quanto. Uh-huh. Però quello che noi vediamo o che abbiamo visto con Mass Effect, quindi poi fra un po' ci arriviamo, non lo vediamo nella televisione o non lo vediamo nel cinema, anche nell'ambito dell'intrattenimento, perché quando parliamo di autoralità noi purtroppo abbiamo questa visione un po' italica del concepire l'autore in quel modo molto alto in cui abbiamo sempre tenuto in considerazione gli autori dei, che ne so, anche del nostro cinema. In realtà in America la concezione è radicalmente diversa, anche quando si dice un film di Michael Bay, chiaramente c'è tutto dietro una sovrastruttura che non dà la stessa paternità a Michael Bay di quanto può dare a Fellini il film di Fellini, insomma questo è chiaro, ma sono proprio concettualmente discorsi completamente diversi. Però secondo me comunque in un modo o nell'altro nell'ambito, quindi in quel segmento di target che è quello del puro intrattenimento, secondo me, non so, comunque non puoi non dare una paternità a un qualsiasi tipo di prodotto, che può essere il subbuteo come può essere anche un videogioco. Il fatto di discutere un po' su questo, perché ribadisco, secondo me noi abbiamo ancora un po' una concezione un po' particolare sia dell'autore che del videogioco, cioè nel senso vediamo l'autore in una posizione troppo alta e il videogioco in una posizione troppo bassa. Anche noi che invece poi alla fine dei videogiochi ci siamo appassionati, ecco, come ha detto Luigi tante volte, sia in questa occasione che in altre, ci siamo anche emozionati, no? Perché sono stati comunque storie. Marco, tu... Innanzitutto sì, il videogioco è comunque una forma di intrattenimento, è nata come un mezzo per intrattenere, anche farci soldi, come abbiamo imparato nel nostro altro podcast. E però bisogna dire che sì, nessuno pensa che con i videogiochi ci vogliono cambiare il mondo, no, cioè, nel senso, però crescendo poi ha cominciato a trasformarsi, a diventare qualche altra cosa, quindi a diventare comunque qualcosa che racconta storie e delle emozioni, comunque cerca di, a volte, non sempre, perché ovviamente un gioco della Wii non ha l'effetto, non ha lo stesso effetto che può avere un gioco da console o da PC. Dipende. Magari uno dipende dal gioco, sì. Cioè, Wii Sport sicuramente no, per Wii Sport dire, magari così. Rispetto a Zelda mi dà delle emozioni diverse, ecco. Esatto, sì. Quello è quello che dice. Quindi comunque sicuramente è un mezzo che si sta trasformando, quindi ovviamente risente della necessità comunque di fare cassa, di rispettare determinati criteri perché possa essere venduto. È un po' come tutte le altre forme d'arte che non siano fatte semplicemente per il piacere personale. È ovvio che quando c'è poi di mezzo il mercato, come diceva pure Simone, è normale, ma come tutti noi diciamo, è normale che poi alla fine qualcuno in bocca ce la mette, insomma. A meno che non è così indipendente da riuscire a produrre per conto proprio. Ma secondo me, perdonami se ti interrompo, un buon esempio può essere nel mondo dei videogiochi Journey. Io ricordo sempre, adesso per citare, non mi ricordo se era proprio Luigi o Andrea Maderna in Outcast. Ma se facciamo nomi a sbaglio. Ma se diciamo. Io ricordo che avevano chiesto al creatore di Journey, dicevano, ma questo gioco quanto è rigiocabile? Cioè, se io dovessi rigiocarlo, ha un'utilità questa cosa? Non hai pensato alla rigiocabilità, Il creatore ha detto, boh, ma perché uno dovrebbe rigiocarlo? Cioè, uno potrebbe anche essere contento così. Diciamo, lui non si è preoccupato. Quello che penso pure io, comunque, perché cioè io no, perché? Della rigiocabilità è proprio il problema che non mi pongo minimamente. Se vedi un film e ti piace. Magari lo vuoi rivedere. Sì. Se vedi un quadro e ti piace, magari ti piace. Ma me lo posso rigiocare anche così com'è. Cioè, non è che. No, ma nel senso, l'intervistatore era come se si aspettasse che il videogioco deve essere per forza creato in modo da essere sempre rigiocabile. Bravo, esatto. Poi in realtà lui ha detto: no, io vi do una certa esperienza, un'esperienza di un certo tipo, poi voi la potete rigiocare, potete non rigiocarla. Io non sto lì a pensarci al fatto che sia rigiocabile oppure no. Cioè, io vi do questa cosa, punto. Se vi piace, rigiocatela. Ma stessa cosa ha detto David Cage poi, quando ha parlato di Heavy Rain. Esatto. Un'esperienza unica che deve essere vissuta per quello che è. Ti finisce bene o ti finisce male, secondo me non lo devi rigiocare. Cioè, che da una parte. Se no, poi scopri le magagne. Vabbè, magari le magagne. Poi magari una volta ne parliamo. Ragazzo, pensando una cosa, io, tra l'altro. Sembra strano adesso, magari adesso che sentirete questa mia affermazione, però è la pura verità. Io non ho mai paragonato il videogioco mentre stavo giocando alle altre arti per tentare di definirlo. Ho sempre avuto questo impulso di doverlo paragonare dopo che ho sentito altri magari parlarne, non è fuori il discorso sull'arte, sulla musica, sul cinema, eccetera. Io invece mi sono sempre goduto il videogioco per quello che era, cioè videogioco, la sua forma espressiva, quindi le sue emozioni che mi dava e a volte la sua preferenzialità rispetto ad altre forme espressive. Ce l'ho sempre visto in maniera... Ma perché comunque contiene un po' di tutto, comunque contiene un po' di tutto ciò, ecco, che già presenta al mondo. Io vado oltre questo aspetto, cioè nel senso, per me non è che contiene un po' di tutto, ho sempre considerato che contiene in maniera diversa quello che si può pensare dell'altro. Ti spiego, quando ascolto una musica mentre sto videogiocando non è come ascoltare, o non è la musica che io ascolto invece in altre modalità fruitive. perché è molto contestualizzato. Per me è un'altra cosa. Comunque, infatti, quello che sto dicendo io praticamente prende un po' di tutti quelli che sono i campi e li mette insieme. Cioè, è una cosa fondamentalmente nuova, perché ridefinisce il senso totale di quello che poi vai a godere. Se lo ascoltassi indipendentemente, quando vado a vedere una scena di Metal Gear in cui non gioco, totalmente potremmo pensare tutti quanti all'unanimità: in questo momento sto vedendo cinema. Faccio un esempio. Non è vero, non è cinema. E vi spiego perché. Perché secondo me quello che tu hai giocato prima, l'aspettativa che si crea poi con quello che giocherai dopo, rispetto a quello che stai vedendo, che è puramente cinematografico, scombina totalmente il senso di quello che vai a percepire, di quello che vai a godere, che invece il cinema non ti dà, perché il cinema sai che non è che interagirai mentre stai vedendo Blade Runner, cioè 5 minuti di film, o 10, o dopo 40, o dopo un'ora, tu sai che non interagirai vedendo Blade Runner, ma dovrai continuare a stare lì passivamente. Quindi la tua predisposizione all'azione, che invece ti dà il videogioco, cambia anche il senso di come fruisci delle parti cinematografiche, puramente cinematografiche. Quindi sì, vabbè, farti... al di là di questo, cioè nel senso, c'è anche da dire che per quanto il videogioco emuli comunque in determinate parti in maniera spiccata il cinema, è comunque un linguaggio diverso, nonostante ne riprenda anche alcuni aspetti grammaticali per certi versi, però comunque è inevitabilmente un linguaggio diverso, quindi non è comunque cinema, non lo potrebbe, forse un giorno lo sarà, neanche, ma secondo me non lo potrebbe neanche essere, anche se ci ha provato in più occasioni ad esserlo, però ovviamente non cinema che passivo che abbiamo noi, quindi sarà qualcosa di sì, ma diverso. In realtà poi il discorso, scusa, sì, dico solo questo, poi dopo poi passiamo pure la parola a Stefano, che nel frattempo sta digitando la lettera, no, sto sgranchiando noccioline. Sì, che mi hanno imparato a leggere ma non bene a scrivere, quindi sto cercando di imparare. hai ragione. No, però dico, cioè, sì, il discorso decontestualizziamo un attimo il discorso che ha fatto Luigi poc'anzi e lo riportiamo a inizio del 1900. Poteva essere tranquillamente una persona che stava parlando del cinema. Perché? Perché quando era nato proprio il cinema in realtà è un medium che ha acchiappato tutto, no? Nel senso, ha inserito l'audio, quindi la musica, ha inserito la narrativa, ha inserito la fotografia, ha inserito la pittura per certi versi. E chiaramente da tutto questo era comunque diverso da tutto questo, e quindi era qualcosa di nuovo, no? E quindi quando si parlava di cinema non si parlava che è come o è accumulabile a, no? E quindi paradossalmente il videogioco comunque non soltanto rimarca determinati aspetti del cinema andandolo un po' a pizzicare, ad acchiappare o a prendere delle contaminazioni, ma in realtà ne ripercorre paradossalmente anche un po' le sorti nelle sue fasi di inizio, perché noi, sì è vero, il videogioco esiste da 40 anni, però fondamentalmente da quant'è che il videogioco è diventato un fenomeno di intrattenimento di massa realmente? Forse sarà una decina d'anni, no? Magari. Con le console di penultima generazione, forse. Eh sì, anche dopo la PlayStation 1, insomma, secondo me. Cioè, nel senso, dalla PlayStation 2 in poi, secondo me, è diventato proprio... globale. Stefano. Sì, no. Io volevo dire una cosa, comunque, vabbè, ormai... scusa. No, vabbè, fai finire, Marco. Ma è anche brutto parlarne adesso, perché poi, dopo tutti questi discorsi, magari c'è tra niente. No, adesso non è che lanci il sasso e nascondi la mano, adesso ce lo devi dire. Anche perché poi quando c'è il sasso in mano è un po' scomodo andare in giro. Esatto. No, come diceva Luigi prima, l'ascoltare una musica, io faccio un esempio che, proprio con Mass Effect 3, praticamente ho ascoltato, prima di giocare il gioco, la colonna sonora. Ne parlai anche con Simone, non so se ti ricordi. No, io non mi ricordo niente, il finanziere, io non so niente. Ho ascoltato la colonna sonora e praticamente la colonna sonora l'ho sentita, però non le ho skippate quasi tutte, proprio non mi piacevano, cioè praticamente mi sembravano un po' diciamo insipide, asettiche. Quando poi ho giocato il gioco, nelle parti finali del gioco, quindi c'è la parte più, cioè il climax, la parte più diciamo emotiva del gioco, c'erano determinate musiche che poi riascoltandole ho apprezzato di più, forse perché collegate, anzi forse sicuramente perché collegate comunque al momento in cui le ho sentite diciamo meglio, quindi quando c'erano determinate situazioni che mi hanno più emotivamente colpito, quindi giustamente va un po' a a essere diciamo, come si dice, plasmata la sensazione che sia della musica, ma anche del video, perché poi diciamo è il momento in cui giochi che le tue emozioni vengono diciamo manco per niente. No, non pensi così, non pensi che sia così. Ma secondo me Mass Effect è arrivato al terzo capitolo un po' trito, ma quello sì, ma io non sto dicendo questo, io sto dicendo un'altra cosa, che praticamente che sia praticamente arrivato un po' alla frutta, insomma sì, c'è arrivato presto la frutta, vabbè, ma tanto già l'avevano detto che non dovevano farne tre, insomma, quindi normale. Vabbè, se Stefano c'hai qualcosa da aggiungere, io passerei al prossimo punto, entrando veramente un po' nel vivo e sparando anche un po' di cacca qua e là. che c'ho le coliche, che a me Stefano e Marco ci riesce bene, a Luigi magari, siccome che parleremo un po' anche del suo pubblico, non so quanto poi. no, io solo una cosa chiedervi, ma si parlerà nello specifico di cosa accade anche nel finale? Ma io direi che questo podcast è ad alto contenuto di spoiler, perché secondo me se spoilerare... ho giocato Mass Effect 3. Non l'hai giocato? Come no? No. Perché appunto sto aspettando che uscirà il finale, quello allargato. Non l'ho toccato. Allora facciamo così: facciamo che non è ad altissimo contenuto di spoiler, ma è ad altissimo contenuto di interpretazione. Facciamo così, insomma, perché poi in realtà. Voglio dire, adesso vabbè, comunque, prima di tutto questo io volevo farvi un'altra domanda a tutti e tre, ma questo riguarda ovviamente il finale di Mass Effect, perché comunque il finale di Mass Effect comunque si presta a un'interpretazione, non è palesato, cioè nel senso non è poi così un finale che praticamente con le immagini ti racconta proprio tutto, e in realtà si presta a un'interpretazione, oltre al discorso della scelta finale che poi sappiamo, insomma, perlomeno sappiamo che c'è, poi quali sono possiamo anche bypassarle. Però il pubblico fondamentalmente, secondo voi, non è profondamente disabituato all'interpretazione dei finali, perché poi in realtà una volta c'erano certi film che finivano, che ti lasciavano un po' così, no? Ah, però com'è che è finito? E se ne discuteva, no? Secondo me significa che mo finisce così oppure mo finisce colà. Insomma, succede ad oggi questo atteggiamento è un po' scomparso. Siamo più abituati a vedere botti, esplosioni, cazzotti senza sì, avere... poi magari vedi su internet gente che ipercritica quel finale come con la successione. No, ma poi cioè, nel senso, questo è successo quest'altro, e poi dopo in realtà sono tutte cavolate. No, ma poi questo succede nel cinema come nella televisione. Però in realtà, secondo voi, questa è la domanda, i videogiocatori, quelli proprio super nerd, sono peggio da questo punto di vista, sono ancora più disabituati rispetto al pubblico generale di altri tipi di forme di intrattenimento? Chi parte? Luigi. Scusa, disabituati all'interpretazione, dici? All'interpretazione, soprattutto nei contesti dei finali. Vabbè, no? Diciamo che nel videogioco non è che di solito non è che ci sono queste grandi interpretazioni, normalmente. Diciamo che alcune nuove opere, alcuni nuovi prodotti, diciamo, si possono prestare. Uno in particolare ha fallito per certi versi perché aveva tanti buchi in mezzo, però in realtà poi alla fine c'è un minimo di deduzione della doveva tirar fuori, no? Nel senso, un minimo di Qui ci vuole questa cosa. Beh, che Heavy Rain non era, cioè nel senso da questo. Vabbè, non è che devi interpretarlo, si vede, insomma. Heavy Rain, secondo me ci sono alcune cose, insomma, che possono lasciarti. Si chiamano DLC che non sono mai usciti. Che non sono mai usciti, vabbè, ma quelli però erano precedenti. Però in generale, voglio dire, cioè nel senso, non ovviamente qui stiamo parlando nello specifico di Mass Effect, perché Mass Effect, io ribadisco, secondo me un minimo di interpretazione gliela devi dare, no? Cioè nel senso, comunque devi prendere una posizione, quello sì, però diciamo che ci stanno, oltre alle interpretazioni ci sono delle cose che sono talmente palesi che dici, ma che cacchio, che cazzo è? Però sono talmente palesi che non penso siano semplicemente un errore o lo sceneggiatore che è venuto Nictus e ha messo quella scena lì, e che probabilmente si agganciano a o DLC, ma molto più probabilmente a nuovi giochi che nella serie spiegheranno il perché di quella particolare scena, quindi degli gli ganci per nuove avventure. Simone, il problema è che magari la gente l'ha presa male. Dimmi Luigi. Scusami, no, volevo soltanto chiederti una cosa, se ho capito bene l'interpretazione. Tu intendi che i videogiocatori più nerd in questo caso sono disabituati a usare le cellule grigie, a sforzarsi per interpretare, questo intendi? Ma non interpretare nel senso strettamente videoludico, io parlo proprio in senso più strettamente narrativo, ma forse interpretare è il termine sbagliato, cioè nel senso a lasciare la possibilità a un videogioco di avere un finale che abbia un significato, che prescinda dalla guerra, dall'esplosione, perché poi in realtà la grande polemica sul finale di Mass Effect, in parte, da quello che ho capito io leggendo un po' a destra e manca, verte proprio su questo, cioè nel senso che in maniera grossolana, anche un po' maldestra, BioWare ha voluto dare un finale con un significato, con un senso, con un certo spessore, che fosse diverso dal famo la guerra alla fine che spaccamo il culo ai razziatori. Beh, infatti, cioè, questo un po'... difficilmente la gente ha comprato l'ultimo Mass Effect, secondo me, perché si spara, per intenderci. Cioè, molto... quello è un gioco prettamente narrativo. Per vedere come va, cioè, a finire. In cui la storia aveva una funzione predominante. Cioè, il fatto di salvare la Terra, sì, ok, si spara, uno shooter, eccetera, ma ci sono... ormai decine di shooter che sono migliori di Mass Effect dal punto di vista, dal punto di vista dello sparare, eccetera. Quindi è chiaro che tutta l'attenzione si sia concentrata sul finale, o comunque sul modo di raccontare quella storia, o i buchi che ha lasciato in sospeso frettolosamente. Se poi il giocatore sia o meno adesso più abituato a, o più pretenzioso o meno pretenzioso rispetto al videogioco in sé, al videogioco stesso, al fatto di videogiocare, c'è da dire però che Mass Effect catalizza proprio un determinato tipo di attenzione o di aspettativa, quindi è chiaro che il videogiocatore si sia risentito proprio sulla conclusione di tutto, perché il videogiocatore è abituato a un aspetto molto particolare, alla moralizzazione finale di quello che è tutta la sua attività videoludica durante il gioco. Cioè, se io sono stato intrattenuto per tot ore, che il finale sia in qualche modo risolutivo, appagante, o che mi vada a concludere tutto un percorso di impegno che ho fatto nel giocare, nel passare il tempo qui. Deve essere gratificato. Sì, che è diverso ovviamente da quello che accade nel cinema, perché nel cinema quanti film escono veramente autoriali, si può dire, in questo senso, qui ci sono i finali aperti, oppure come tutto il protagonista muore o muore a metà del film, oppure sto pensando, non so, ai film di Tarantino, che partendo da Pulp Fiction sono opere postmoderne, cioè hanno completamente tagliato tutte le sequenze temporali, appiccicato il finale in mezzo e riprendendo la fine, facendo una piccola morale con scene che non sono, tra l'altro non hai visto all'inizio, non c'è un protagonista principale molto ben delineato, ma sono diversi, c'è tutto quindi un discorso per cui lo spettatore è abituato, si è abituato a un determinato tipo di linguaggio che appaga una sorta di voler dare un determinato tipo di senso a quello che ha visto, che è molto differente rispetto al videogioco, a cui siamo abituati alla conclusione del nostro viaggio, per usare adesso il termine videoludico abusato ultimamente. E il viaggio per un videogiocatore conta ancora tanto in come poi si esprimerà il suo finale, il finale del videogioco stesso. E perché? Perché sarebbe totalmente spiazzante uscire da una forma espressiva che non sia lineare oggi come oggi per il videogioco, cioè ci sentiremo quasi un po' traditi, no? Nel senso, abbiamo viaggiato fino adesso, che cosa mi stai facendo vedere? Perché dovrei giocare un qualcosa che ho giocato 10 minuti fa o un'ora fa, oppure mi fai morire il protagonista principale, oppure sai, quelle piccole cose. Quindi immaginatevi quanto possono essere sconvolgenti poi dei piccoli fatti videoludici, tipo la morte di Iris in Final Fantasy VII, faccio un esempio, che non era un protagonista principale, era un personaggio del party comunque che aveva determinati tipi di carattere, tutto quanto lo sappiamo com'era questo personaggio, immagino lo sapete anche voi, farlo morire. Sì. A un certo punto sono quelle cose che diventano topiche per il videogioco. Perché? Perché non siamo abituati come videogiocatori a vedere narrativamente una sorta di dramma messo in scena in quel modo lì. Invece potrebbe essere la regola, potremmo aspettarci tutti in un videogioco di stampo narrativo, un RPG eccetera, che ci siano dei colpi di scena così marcatamente forti e così spiazzanti, o dei finali totalmente negativi, pessimisti. Facciamoci questa domanda: quanti videogiochi hanno dei finali pessimisti, totalmente pessimisti, come magari ce l'hanno molti film in cui va tutto in vacca alla fine e ti dà una... Guarda, c'era che poi purtroppo hanno corretto con il DLC, c'era quello di come si chiama, Prince of Persia, quello fatto arrivare a cartone animato, dove il personaggio non moriva mai. Sì. Che aveva un finale che praticamente alla fine per salvare, spoileriamo sti granca, per salvare la ragazza sacrifica tutto il mondo, lei praticamente lascia che l'oscurità distrugga tutto il mondo. Poi però hanno fatto uscire DLC perché forse era troppo pesante, so. Forse, ecco, anche un altro finale che può essere abbastanza particolare, a me ne sono venuti in mente due. Uno è quello di Dead Space Extraction, non so se avete presente, durante il finale non si capisce come va a finire, ma sembra in maniera piuttosto negativa. Sì. Ti lascia aperto una serie di possibilità che però sembrano tutte finire sul tragico. E poi un altro finale che mi aveva colpito, adesso non per parlare sempre di vecchi videogiochi, era stato il finale di Monkey Island 2, che... Ma lui muore poi. Su Monkey Island. No, però, Monkey Island 2. Per esempio Mafia comunque ha un finale tragico poi alla fine, no? Comunque... Sì, ma io dico, ecco... Ecco, forse Mafia è l'unico esempio, per ritornare a quello che ha detto Luigi, forse Mafia è veramente l'unico, ma perché il videogioco continua ad essere legato a quella, sempre a fare il parallelismo cinematografico, a quella forma di intrattenimento molto commerciale, quindi in realtà Mafia, in questo Mafia, si distacca dall'opera autorale. Mafia, diciamolo che è un capolavoro, insomma. Sì, no, il primo assolutamente. Sì, poi ci vanno sempre a tentoni le grandi produzioni quando sai che il finale va in vacca tutto quanto. Te lo dicono prima come va a finire. Pensate ad Halo Reach, che sappiamo, insomma... Adesso anche noi spoileriamo un po' come va a finire. Lo dice all'inizio, sappiamo già come andrà a finire, perché Reach è il primo pianeta che viene vetrificato dai Covenant, quindi non si salva un cazzo nessuno degli Spartan, soltanto Master Chief riesce a fuggire, e tu giochi uno di questi Spartan che sai che dall'inizio che finirà, quindi ti vedi piano piano tutta la squadra annientata, i tuoi amici a cui ti sei affezionato durante il gioco eccetera, sterminati uno a uno. Non so se l'avete giocato allo Reach. Sì, ma io gli Halo proprio... Mi sono fermato al primo. Mai nella mia vita proprio, non mi è mai capitato. Ma ok. Cioè non sono né a favore né contro, però... No, ma c'è una posizione rispettabilissima, ci mancherebbe. Io vi invito comunque a provare la sensazione da Halo Reach, così, anche a titolo sperimentale, nel vedere il fallimento durante il progresso del gioco, in cui ti sembra di tener testa a una guerra, a cui alla fine sai che non sopravviverai, ma lo sai dall'inizio, la promessa è questa, i trailer, sai già come andrà a finire tutto quanto, ma gioca la leggenda dall'inizio. E... Beh, anche l'inizio di Mass Effect comunque, il 3, cioè, comunque è quasi, non dico, però quasi paragonabile alla prima miniserie del nuovo Battlestar Galactica, no? Nel senso che comunque questo senso di sterminio abbastanza palpabile, se lo vuoi percepire chiaramente, sì. No? Ma diciamo che c'era più un effetto come dire negativo nei primi due che nell'ultimo, perché l'ultimo è, non lo so, a parte i personaggi secondari che ovviamente in base a quello che succede alle tue decisioni possono vivere o meno, perché poi alla fine c'è in tutte e tre gli episodi, comunque si perde un po' l'aura di negatività, insomma. Sì, forse più i trailer in effetti, cioè il trailer quello là del campanile lì dell'orologio, perché che poi tra l'altro non c'è neanche nel gioco, tra l'altro. Sì è vero, ma cioè, però, quello infatti, ecco, riusciva a darti proprio il senso, no? Che faceva il conteggio, no? 2 milioni di morti fine, il primo giorno. Sì, si vedono scene ma sempre da lontano, poi alla fine non ci sono proprio momenti in cui stai, forse alla fine che sei tornato. Forse la verità è che Mass Effect 3 è un bel gioco di merda comunque. Probabilmente sì. No, io direi, probabilmente, cioè, sì, Ma tu, Stefano, l'hai giocato, no? Perché sennò no, no, vediamo. Cioè, sì, no, non l'ho finito, però sì. Ah, non l'hai finito. No, okay. No, no, ma io dico, ho sempre detto, comincia. Io sono. No, io non ho problemi con gli spoiler. Nel senso, a me non. Non mi danno fastidio. Vabbè, no, ma in generale, questo vale praticamente. No, anche a me, non è che io, infatti, come ho detto, quando mi hai ospitato l'ultima volta su Retrocast, cioè io ho giocato Final Fantasy VII quando. The Final Fantasy VII, pure il portiere, pure il panettiere sotto casa diceva sì, che esatto. Moriva, insomma. Quindi, tra l'altro, ecco, mi è sempre stupito come tutti parlino della morte di Aeris, che è una cosa che succede diciamo a metà del gioco circa, ma non si parla proprio del finale, ci si parla più di una cosa che succede lì piuttosto che del finale. E soprattutto una cosa che mi dà molto fastidio è che io preferirei non sapere se un capitolo è quello finale, quello di mezzo, è la fine di una miniserie. Cioè, preferirei lasciare che. Cioè, avere la possibilità di finirlo e di scoprire se il gioco è davvero il capitolo finale. Cioè, loro me lo vogliono concludere. Lasciamelo scoprire, perché appunto esce magari Mass Effect 3 e tu sapevi già dal 2 che sarebbe stato il capitolo conclusivo. Però, boh, questo mi toglie un po' di passione alla cosa. Capitolo conclusivo che... per ora. Però comunque ha chiuso tutta una serie di discorsi. Beh, sicuramente la storia di Shepard è finita. Che è già detto che comunque sarebbe stata in ogni caso l'ultima. Anche perché poi magari può capitare. Ma che... già detto vuol dire non vuol dire. Cioè nel senso no, cioè può capitare esatto che loro ti dicono che quello conclusivo, però magari si rendono conto che invece il discorso, quello vecchio, tira ancora. Magari dopo che fanno un capitolo successivo che risulta un po' fallimentare, e magari ti riportano indietro la vecchia serie, ti riportano indietro i vecchi personaggi. La cosa che Shepard esempio... Chronicles, perché Shepard Chronicles. No, ma una cosa anche metti all'Assassin's Creed, dove prima hanno usato Altair, poi hanno visto che balle, cioè. No, ma però dico... finisce adesso. Basta, no, però poi hanno utilizzato Ezio Auditore per tutta una serie di giochi che avevano avuto molto successo, e adesso a me sembra quasi che si stiano preoccupando di cosa penserà la gente nel cambiare protagonista. E secondo me dovrebbero essere un po' più smaliziati per questa cosa, cioè un po' ma meno... in realtà loro, ma secondo me è stata un'arma a doppio taglio, perché sì. Loro hanno usato Ezio Auditore per una serie di giochi che in realtà era un gioco solo e che l'hanno dovuto spezzettare per problemi di tempi produttivi, e quindi poi ovviamente si sono ritrovati col fatto di aver fatto uscire più giochi con Ezio, e quindi la gente ci ha avuto ma il tempo, diciamo, da affezionare, che comunque sta andando fuori tempo, no, è un errore sì ma a parte no, è un errore di fondo, perché il protagonista in realtà dovrebbe essere Desmond, che è quello che ricorda, però essendo incentrato sul ricordo troppo poco, la gente non empatizza. Esatto, essendo incentrato sui ricordi, quindi sui personaggi dei ricordi, poi alla fine Altair sì, figo, ma non è un personaggio molto carismatico, non come Ezio Auditore, che comunque secondo me il secondo è molto, mi dà la pista insomma al primo, e anche come personaggio carismatico poi farlo fuori, mentre Desmond, che il rincoglionetello che sembra il rincoglionetello di turno, con Connor nuovo che non si sa chi cacchio è, sto mezzo indiano, non si sa chi è, è un bel rischio insomma. Ma io più che altro vabbè, ci ho avuto la sfortuna di giocare il 2 di Assassin's Creed subito dopo aver finito il primo, quindi a un quarto del gioco mi ero stufato, cioè nel senso me l'aveva saturato, quindi non sono riuscito, però prima o poi lo riprenderò. Però il secondo, vabbè, comunque ritorniamo, ma torniamo indietro, a parte ciò, esatto, io cioè volevo parlare solo semplicemente del fatto che non mi piace il fatto di sapere in anticipo a che punto è la cosa, al di là di come sarà il finale, poi magari il finale è un'altra questione, però questa cosa qua che lo so da prima che il finale è davvero un finale, è una conclusione, mi stai sempre fastidio. Sai che sei arrivato alla fine, questo sì, esatto, cioè dico ma vabbè, tanto questo è il capitolo finale, magari me lo posso anche, cioè dico, me lo posso anche giocare tra 2 anni, tanto non è che ho il rischio che ne esca una dopo, ecco, cioè di perdermi la... perché come dici tu, magari dopo un anno vedono, forse è il caso che ne fa un altro e ne esce uno nuovo, cioè non è. In realtà nel mondo videoludico come quello dei film non è proprio sicuro al 100% per l'ultimo capitolo. Ma no, ma non è tanto quello, è il fascino del, mi tolgono il fascino della scoperta, ecco, come Ulisse di Alberto Angelo, il fascino della scoperta. No, è quello che mi manca, cioè il fatto di saperlo in anticipo. Comunque. In buona sostanza, chiudendo un attimo questo piccolo capitolo, quello che voglio sapere io da voi, così riassumendo, il pubblico, e soprattutto il pubblico videoludico, quello proprio super nerd, quello che passa 15 ore davanti al multiplayer, è abituato o è disabituato a avere dei finali che hanno un contesto che prescinde da botti, esplosioni, cazzi imperi vari e flash e lens flare a tutto spiano. Perché questo un po' è il discorso sul quale magari volevo puntare, perché poi in realtà è proprio da quel tipo di pubblico super vabbè, io però posso fare un inciso su questo ortodosso, chiamiamolo così, cioè super estremista. Secondo che poi me nasce poi tutta la polemica, non è problema dei nerd, perché poi il nerd non è che è quello che soltanto gioca ai videogiochi, è quello che si legge i fumetti, quello che si vede i film di fantascienza, quindi spazio è un po' la cosa. Quindi secondo me, cioè, il vabbè, nerd è abituato. Sì, ma io ho usato un secondo termine me così problema, a cazzo, non è che... non so i nerd, sono i fanboy. Ah, forse è così, bravo, forse era più quello, ecco, quindi proprio il fanboismo, quello più estremo, che poi alla fine comunque è talmente accecato che non riesce più a vedere se una cosa può avere, che ne so, una deriva diversa rispetto a quello, ecco, come diceva magari Luigi, no? Il fatto che comunque non c'è, secondo me, libertà in questa industria che è basata sull'intrattenimento e quindi ovviamente sul guadagno, chiaramente non c'è la libertà autorale di poter dire ok, io questo film te lo voglio fare drammatico, te lo voglio fare triste, te lo voglio fare riflessivo, ma è tutto improntato su una concezione narrativa, su un certo tipo di mitologia narrativa britannica, insomma molto cristologica, insomma molto stereotipata. Quindi poi alla fine, cioè, Mass Effect nel 3 in maniera particolare cioè arriva a questo, cioè arriva al diventare talmente uno stereotipo di se stesso che probabilmente su questo un po', cioè, nel senso, ci ha deluso al di là del finale, insomma, no? Però comunque questa è la mia opinione, quindi non mi sono un attimo espresso, quindi volevo sapere se anche voi, insomma, in due parole, poi andavamo magari al discorso successivo. Ma allora, Luigi, prego. Ma mi viene in mente semplicemente che nel momento in cui tu serializzi un videogioco che non parte come una serie, tipo il primo Mass Effect, che poteva essere autoconclusivo in sé fondamentalmente, tu hai un bacino di utenza ormai allargato, che ha capito il discorso che tu avevi messo in campo come nuova proprietà intellettuale, quindi totalmente allo sbaraglio, tuffo nel vuoto. Avendolo assimilato, tu hai la possibilità di poter interrogare cosa vuole questo tipo di utenza e quindi lavorare a servizio. Quindi voglio dire che già il 2 e il 3, già il 2 con l'iniezione poi di Electronic Arts, i fondi, la distribuzione, il multipiattaforma, quindi portarlo anche su PlayStation, quindi andare a tradire il discorso che si era fatto Xbox iniziale, no, PC, che dir si voglia, e va a toccare proprio questi tipi di questo aspetto. Cioè io ho più possibilità di conoscere cosa vuole la gente, perché ho più feedback, mentre prima invece mi ero buttato. E questo cambia sì, la natura. Sì, però con Uncharted questo non è successo. Perché Uncharted, sì, è vero che tutti e tre i giochi sono più o meno una vaga evoluzione uno dell'altro, però è andato in crescendo, secondo me, ovviamente. Sì, sì. Non è una legge la mia, cioè sulle qualitativa, perché sto semplicemente portando il fenomeno a dire che comunque il servizio è migliorato. Uncharted ci hanno messo il multiplayer, ad esempio, al 2, che prima non c'era, ed è uscito anche bene questo multiplayer, molto godibile tra l'altro. Non è tanto adesso se l'operazione riesce o meno, perché molte volte migliorano anche certi aspetti. Mass Effect 2 migliora il primo Mass Effect, ci mancherebbe. Soltanto che manca di quell'aspetto più conturbante che aveva il primo, perché lo sentivi che era una cosa nuova, non ti c'eri mai imbattuto, e c'era qualcosa di diverso. Non sembrava nemmeno fatto tanto per il pubblico, ma sembrava fatto per gli appassionati di fantascienza. Cioè quella è un'opera nerd totalmente il primo Mass Effect, anche se vuoi completamente sballata, anche un po' morbosa per come spingeva certi aspetti, certe tematiche, come le ficcava dentro. Io adoro il primo Mass Effect, a te che l'ho finito due volte, l'ho finito 5 volte, quindi straccio. Cioè, ma il 2 invece non l'ho finito perché per loro, per dare anche, e questo criticando ovviamente Simone il secondo, ma criticando per un tipo di impostazione produttiva che hanno voluto dare, hanno fatto a compartimenti stagni le missioni. Si fa questo, si fa quest'altro, recupero i personaggi, pam, pam, pam, pam. Si fa quindi una sorta di lavoro che non lavora più sulla storia, scusa il gioco di parole, ma va a lavorare su un aspetto molto facile, cioè compartimenti stagni, figure incamerate che fondamentalmente lo riconducono al videogioco in sé. Cioè il videogioco ha missioni, il videogioco è missione, sono livelli di gioco. E questo cos'è? È semplicemente trovare una via un po' più, una scorciatoia, se intelligente quanto si vuole, per carità, però comunque è una scorciatoia per poter portare avanti la storia che se vai a stringere è molto meno densa rispetto al primo. Diciamo che era anche un capitolo di passaggio quello, il 2 era più molto di passaggio. Anche se però comunque devo dire i personaggi del secondo ci sono dei bei personaggi, insomma, cioè ce n'è uno in particolare. A me ti piace Samara perché stavo che zizzere fuori. Cioè, a parte che nel doppiaggio italiano probabilmente era quella che ne guadagnava più di tutti, cioè nel senso comunque quella profondità, quel senso un po' misterioso del personaggio in realtà era veramente ben riportata anche nel doppiaggio in italiano, quindi cioè nel senso il personaggio era figo, mo al di là delle zizze, insomma, perché poi le zizze sui giochi BioWare ce l'hanno tutti le zizze, cioè nel senso momenti pure uomini ce l'hanno, quindi cioè nel senso proprio una cosa. Vabbè, comunque, per andare avanti, io ovviamente salterei un passaggio perché chiaramente 2 su 4 non hanno visto il finale di Mass Effect, quindi non esprimiamo un'opinione sul. Non tanto per Stefano, perché tanto lui ne frega niente. Ma comunque si può commentare un finale anche senza doverlo raccontare. Sì. Cioè, nel senso, comunque, al di là di questo, in realtà, poi secondo me questa discussione nostra verte su Mass Effect come finale, ma in realtà è più il fattore scatenante quello che ci interessa, perché tutto il contorno che si è creato, anche se poi non lo so perché, come è venuto in mente questa cosa, secondo me BioWare, e forse qui do ancora una volta ragione a Luigi, da quando è entrata nella grande industria, proprio quella grossa, ha perso secondo me parecchio, insomma, del suo spirito, del suo smalto, perché BioWare, ricordiamo, ci ha tirato fuori grandi giochi, ma grandi giochi proprio, cioè a partire da KOTOR, quindi a Knights of Old Republic, ed è la stessa che ci ha prodotto poi alla fine Dragon Age 2, insomma, quindi anche Jade Empire, Jade Empire, io ho comprato l'Xbox solo perché l'ho comprato prima il gioco Jade Empire, mi piace ricordarlo questo, ho detto un giorno avrò l'Xbox, era poi il 2005 e si era completamente svalutata perché la Xbox, cioè la compravi a un centinaio di euro, per dire. Però io ho avuto quel gioco, ho detto questa è una cosa bellissima, ragazzi. Io ho comprato l'Xbox 360 solo per Mass Effect, quindi poi dopo l'ho finito di giocare e si è sbagliato e quindi ho perso tutti i salvataggi, tutto quanto, imprecazioni di malevola natura, chiaramente. Esatto, no, non potresti fare neanche la missione Jolly perché doveva essere fatta prima, noi furbamente aspettammo la conclusione. Ok, allora voi suppongo che sapete, insomma, tutto il cancan, la rivoluzione e le proteste di piazza e di massa che si sono generate, infrante, sì, esatto, rivolte popolari, tipo Black Bloc praticamente, insomma, successivamente al finale di Mass Effect, per protesta sul finale di Mass Effect. Allora, intanto la prima cosa che vi domando è quanto è legittimo che un pubblico consumatore si scagli in maniera così feroce, ossia a partire dal boicottaggio fino alla class action, insomma, quindi fino addirittura ad azioni legali nei confronti di BioWare, chiaramente pretestuose, strumentali, perché insomma voglio dire, poi alla fine puoi veramente contestare qualsiasi cosa, tranne che, voglio dire, comunque non ti hanno dato un prodotto, e quanto allo stesso tempo sia ancora più o meno scandaloso il fatto che in realtà lo stesso pubblico che protesta per il finale di Mass Effect non si incazzi in maniera veramente feroce per il fatto che ci consegnano oramai da anni a questa parte prodotti che sono praticamente incompleti quando arrivano nei nostri lettori. Ma magari fossero incompleti? Incompleti, addirittura a tratti anche ingiocabili, cioè nel senso comunque anche mancanti, voglio dire, di parti, con tutti i bug e cazzi vari. Perché lui ti fa bene ad aspettare questo caso. Ma infatti io, vedi, Dragon Age il primo l'ho finito di giocare proprio ieri, perché me sono comprato l'estensione super con tutti i DLC. Voi in realtà, Simone dice, perché vuoi aspettare, in realtà sa benissimo che appena prenderà Mass Effect 3 e lo finirà, la PlayStation 2 esploderà perché, certo, ogni Mass Effect che ha giocato ha compromesso la console su quel gioco. Il Mass Effect 2, dopo averlo giocato, si è formattata la PlayStation. Formattare, che ripetere di tutti i salvataggi, ma di tutto, di 200 per ore per due cose, di New Vegas. Mi ricorda, mi ha riportato poi ai tempi di Final Fantasy 8, insomma, il 7, quando li giocavi sulla PlayStation, e a un certo punto la memory card, quando andavi a ricaricare il gioco, era vuota, e lì veramente il gelo. Penso che mali profondi sono nati dentro di me. Ma guarda, lì era ancora peggio perché perdevi, rischiavi di perdere tutti i salvataggi, non solo tutto, quelli di quel gioco. Era forse. Infatti perdevo tutti i salvataggi. La stessa cosa è successa. Ah, no, ma anche in questo caso. Qui dici, magari puoi rischiare di perdere il salvataggio di un gioco ancora. Nel tuo caso, però, è successo l'Armageddon. No, la stessa cosa, perché a un certo punto ho acceso la PlayStation, un settore danneggiato, sistema irrecuperabile, prova a recuperare morte, il sistema. Morte. Prova a recuperare il sistema, il sistema non è recuperabile, riformatta tutto e ripristina il sistema. Ho dovuto ripristinare tutto e chiaramente ha piallato 4 anni. E mezzo di. Beh, non solo, immagino tutte le impostazioni, tutte le cose. Sì, vabbè, DLC, i DLC, i trofei, tutto. Insomma, sì. Poi, insomma, che cosa divertente, sì. No, molto piacevole. Alla fine me ne frego, però insomma, nel senso. Vabbè, è fastidioso, non lo so. Come quando si è formato un hard disk esterno, che magari non è che avessi dentro il lavoro della vita, però, sai, comunque è fastidioso. Non è... Comunque, ritorniamo a noi, Luigi. È più ridicolo che si incazzano per il finale di Mass Effect e non si incazzano per il fatto che comunque i giochi veramente oggi escono assolutamente mutilati, praticamente. E possiamo fare anche un esempio in maniera lampante, ma al di là dei Fallout 3 New Vegas, tanto un po' si è salvato. Ma ad esempio Fallout 3 no, c'era proprio il finale Fallout tracciato, 3 eh? Vabbè, ma c'era addirittura Skyrim con bug improponibili, cioè missioni incompletabili, perché chiaramente lì è proprio un problema di scripting, no? nel senso non è che ti manca c'è il glitch grafico, qui mancano pezzi di scrittura del gioco, cioè, quindi stiamo a parlare magari ci sono ma sono state saltate a pie pari, sì capisci, cioè nel senso comunque Luigi. La natura del videogioco è una natura modulabile, perché è fatta di codice che può essere integrato, soprattutto adesso che abbiamo la possibilità di poterlo fare in tempo reale scaricando una patch in 2 minuti che ti va a correggere un determinato tipo di bug, cosa che non puoi fare per i dischi o per i film fino a quando non saranno totalmente dati digitali che possono essere ritoccati. Quindi è una forma fluida il videogioco da questo punto di vista, con la quale puoi lavorare, e che le software house mettono di conto all'inizio, cioè non vi preoccupate se c'è qualche bug eccetera, perché poi l'aggiusteremo poi anche quando il gioco uscito. Permettimi, ma non è accettabile da principio una cosa del genere. Sì, ma una cosa è quello che non accettiamo e una cosa invece è quello che loro programmano a monte, perché sanno che il videogiocatore o mangia la minestra o salta la finestra. Però, fondamentalmente, che non è che il videogiocatore dirà non comprerò il prossimo Skyrim perché so che ci saranno le patch, lo comprerà lo stesso. Quindi questo è, lo diamo per assodato. E, cosa succede? Succede che da questo punto di vista sto pensando anche il rapportato, se vuoi, al finale di Mass Effect o altro. Loro è comunque un servizio che vanno a dare, cioè immaginate quanta libertà hanno di poter lavorare per incontrare i gusti del giocatore e quanto sia doveroso farlo per il videogioco in maniera molto più complessa e pianificata a tavolino rispetto a un film. Perché vi dico questo? Perché penso che è una forma di servizio che loro vanno a fare anche con il finale di Mass Effect, cioè abbiamo possibilità di ritoccarlo questo gioco perché ci hanno mosso determinati tipi di critiche, tanto anche se sarà l'ultimo capitolo di Mass Effect noi lo andiamo a fare perché facciamo vedere che vogliamo bene ai videogiocatori. Io così l'ho intesa. Tu potresti dire ma no, perché altrimenti che gliene frega loro dell'affetto verso i videogiocatori, hanno preso i soldi dei videogiocatori e basta, si tenessero il finale e non rompessero i coglioni. Invece no, è diverso perché non so come posso dire, però l'ho vista proprio come un'operazione più che commerciale, perché commerciale non è, visto che non sarà pagato il DLC, sarà gratuito. Anche perché se no gli andavano veramente da fuoco le macchine, cioè. Quindi sì, è proprio perché probabilmente non hanno avuto tempo di svilupparlo a dovere, non hanno potuto criticarlo al massimo, non hanno avuto tempo di provare anche il gioco a dovere, come nel caso per esempio come succede con Skyrim, che è talmente immenso come gioco che qualcosa sfugge, perché le famose deadline, il fatto che debba uscire in un certo tipo di tempo o che ha pianificato altro, quindi si può rimandare questa cosa qui, che tanto il videogiocatore non è che boicotterà chissà che cosa, non è che hanno messo il finale perché hanno paura che il videogiocatore poi non compri compri cosa? Il videogiocatore lo compra, il videogioco, sti cazzi. Beh, è vero che in un certo punto è una forma di servizio, è un servizio che fanno per il videogiocatore. Non vi è piaciuto? Potete scegliere. O giocate col finale che è già standard nel disco, oppure se volete, non siete costretti, potete scegliere quest'altro finale qui. Però è lo stesso, non è che lo cambiano. È la natura del videogioco. Cioè, ragazzi, questo è veramente un'opera fluida. Cioè, in corso d'opera tu puoi cambiare le carte in tavola, spampinare l'opera, farla restringerla. In futuro, io mi immagino che potesse essere sogno. Che sia veramente qualcosa molto marcato da questo punto di vista, perché lo permette la natura stessa del medium. Immaginatevi Blade Runner, non so se avete visto l'ultima versione di Blade Runner, in cui hanno richiamato i vecchi attori a recitare soltanto le teste, fondamentalmente, e le hanno rimontate sul film originale, stessi attori. Perché? Perché c'erano degli errori al tempo, perché avevano usato una donna con un parrucchino che faceva la controfigura, hanno rimontato la testa, cioè non sono andati a ritoccare l'opera a ritroso, quella che ormai pensavamo nell'immaginario di tutti quanti, perché avevano le tecniche e le possibilità di poterlo fare quando c'era una nuova reedizione. Cioè, immaginate invece che potenza c'è il videogioco, che è una continua reedizione potenziale. Cioè, volendo, si potrebbero svegliare la mattina loro e dire: adesso cambiamo il personaggio, il nemico finale, e ci mettiamo mia nonna in carrozzella. Faccio un esempio. Chi lo vuole se lo può scaricare. E altrimenti tu continui a giocare con il nemico che avete conosciuto, standard, che sta nel disco. Beh, però, perdonami Luigi, una cosa è saperlo prima che il prodotto è così fluido, una cosa è pagare per un prodotto che poi, come dire, non nel caso di Mass Effect, io parlo più in generale, una cosa è pagare per un prodotto che tu ti aspetti che è fatto in un, cioè loro ti dicono è fatto in un modo, però poi tu ti rendi conto che è fatto in un'altra maniera, che loro lo dovevano ancora completare, tra virgolette. Io su questo sono d'accordo con Luigi, perché sì, con Luigi, con Stefano, perché in realtà è bello il discorso che fa Luigi, sono parzialmente anche d'accordo. Il problema è che, cioè, per come la poni te, Luigi, sembra che ci stanno a fare un favore, in realtà. Cioè, sono stanno a fare da soli. In realtà, parliamoci chiaro, non è che ci stanno a dare sto servizio. Loro sono anche tenuti, se non obbligati, a darci un servizio nel momento in cui io ti ho pagato bei 65 euro per comprarmi un gioco che tu mi hai consegnato, che parzialmente non completo. Quindi è come se io ti avessi comprato un gioco ordinato sulla fiducia e tu me ne hai dato metà, e poi dopo a un certo punto ogni tanto papà ci butti dentro la roba. Cioè, questo è. Sì. E allo stesso, no, e allo stesso tempo, ma questo da cultore, cioè da amante del cinema e soprattutto in particolare da amante di Blade Runner, cioè io contesto le operazioni che sono state fatte su Blade Runner, ma le contesto come le posso contestare anche su Guerre Stellari, perché secondo me un'opera cinematografica è figlia del tempo in cui è nata, con i mezzi con i quali è stata realizzata e anche gli errori che possono essere inseriti all'interno. Il fatto che tu mi vai a rieditare un'opera, in realtà le privi un significato, cioè gli strappi via un po' l'anima di quel film. Al fine di che poi? Cioè, in realtà, devi portare un e di dimostrare che era un'opera perfettibile, che quindi adesso è molto più ben congegnata, esteticamente impeccabile. Cioè, non riesco a capire veramente. Beh, no, è che magari al tempo, quando è uscito, adesso parlando di film, nel caso di videogiochi è già diverso, però nel caso dei film, magari quando al tempo il regista aveva in mente delle cose che non erano realizzabili con i mezzi di allora, quando è stato la grandezza di quel film è essere riusciti a fare quello che hai potuto fare con i mezzi che hai potuto ma lui non voleva fare solo quello. Adesso parlando appunto di Guerra Stellare, forse Guerra Stellare non è neanche l'esempio migliore, magari poniamo che Ridley Scott ha detto: ok, io ho realizzato questa cosa, però avrei preferito che fossero fatte, che ci fossero queste e queste altre aggiunte. Chiaramente non erano fattibili 20 anni fa. Adesso invece sì, in maniera molto più semplice. E allora dici: noi le reintegriamo dopo. Però comunque, nel caso dei film, secondo me rimane il discorso originale. Cioè, nel senso, tu hai quel film, l'hai fruito, e l'hai fruito come doveva, almeno come al tempo doveva essere fruito. Nel caso del videogioco ti ritrovi con un prodotto che è sì fluido e perfezionabile. Però è un'esperienza che in certi casi ti viene cambiata mentre lo stai fruendo, praticamente. Cioè, come se durante il film a un certo punto ci fosse uno stacco, cioè tagliassero proprio la pellicola e dicono: guarda, questo qua lo dobbiamo aggiustare adesso, capito, cioè, sì. Tanto avanti. No, intanto tu adesso guardate, sì, il pezzo, quando film, c'è tempo, questa sub, no, questo poi, poi noi lo mettiamo una patch al film, tra virgolette. Poi ecco il discorso che stavi facendo, Luigi, a me piace molto. Cioè, se io dico, io sono disposto molto felicemente a comprare un gioco che viene integrato nel, come lo stavi spiegando tu appunto, in una maniera molto costante, molto continua, a patto però di essere consapevole di questo acquisto, cioè di questa cosa. E io sono pronto, cioè, lo sogno anche io una cosa così, quando lo so. Se però invece sto comprando una cosa, mi aspetto un'esperienza, come dire, standard, una cosa come poteva essere, cosa ne so, dei tempi della Semplicemente mi dicono: questa cosa che stai comprando è blu, poi invece vai a vedere verdina. No, ma io, ma io penso anche un'altra cosa, il fatto che comunque, allora, innanzitutto il fatto che loro abbiano fatto questa operazione commerciale o non commerciale, pubblicitaria o non pubblicitaria, l'hanno fatta di conseguenza a delle proteste che sono state abbastanza feroci, perché veramente ribadiamo il fatto che comunque sono state fatte anche le azioni legali, in teoria anche a livello di pubblicità, per una società dei capitali come Electronics Art e compagnia bella, chiaramente non è che c'ha un bel ritorno di conseguenza. Allora hanno dato questa sorta di contentino che comunque in realtà crea un precedente, no? Quando io e Luigi fermiamo a un bar, ci sediamo e parliamo del finale di Monkey Island 2, lo sappiamo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del finale di Monkey Island 2. Qui c'è il rischio, secondo sto principio, che un giorno io e Marco si incontriamo al bar e parliamo di Mass Effect 3 e stiamo a parlare di due cose diverse. Perché questo è un po' il rischio, no? Cioè, nel senso, stiamo manco più a parlare di una cosa che comunque ha una continuità narrativa. Beh, ma loro, cioè, non ti stanno fornendo un finale diverso, loro ti stanno fornendo un finale chiarificatore in questo caso. Oppure, okay. Però, secondo il discorso che ha fatto Luigi, ha detto: cioè, nel senso, essendo tutto in diluire, e chiaramente c'è anche la possibilità che loro possano migliorare anche grazie ai feedback determinate cose, e questo senza cioè, non si mette in discussione, Simone. Vai. Vedi in cosa stiamo scadendo? In quel discorso che stiamo dicendo prima, cioè ci stiamo legando al finale di qualcosa, come se fosse tutto la conclusione di un'opera di cui siamo passati attraverso, ed ecco il suo finale. E io sto spuntando attenzione su una cosa particolare: è il videogioco stesso. Io empatizzo con la natura del videogioco stesso, come se stessi empatizzando con una prostituta. E non posso dire, non sto paragonando il videogioco a prostituta per darti un carattere, ma dice una prostituta, non posso dire questa è una santa perché c'ha l'anima la prostituta, punto. Allora cosa succede? Succede anche che se empatizzo con la natura del videogioco, io ti dico che si presta a questo aspetto qui di fluidità dall'inizio fino alla fine. Cioè, se noi ci sediamo in un bar e parliamo io e te, parliamo di due viaggi completamente differenti di Mass Effect, pure se giocassimo con lo stesso gioco, perché è la natura del videogioco averci fatto provare emozioni e averci dato esperienze diverse, perché non avremmo fatto tutte le missioni, perché io ho vissuto dal punto di vista suggestivo una cosa più intensamente, perché ho un riferimento letterario diverso dal tuo a livello fantascientifico. Ma questo è già così, però. Perché Sì, questo è già così, infatti, è la natura stessa del videogioco. Per cui io non vado adesso a moralizzare e a dire, però dovrebbero farmi questo, hanno sbagliato, secondo me farmi quest'altro. Io alzo le mani, sospendo il giudizio e dico, è la natura del videogioco che permette anche questo. Per cui non mi stupisco se creandosi questo precedente, poi magari ce ne saranno altri in futuro, soprattutto con produzioni AAA dove ci hanno investito milioni di dollari, per poi alla fine vederseli criticati questi investimenti per un finale. Ma vaffanculo, allora lo ricambio il finale, lo vado ad aggiungere, vi do la possibilità di, vi vengo incontro a voi videogiocatori, o per colpa nostra perché non abbiamo sviluppato a dovere, o perché ce ne rendiamo conto che forse era carente, oppure perché amiamo talmente tanto il rapporto che i giocatori devono avere con noi che facciamo questa azione qui. Ma la possiamo fare perché il videogioco si presta a fare una cosa simile. Quindi tutto ritorna all'essenza del videogioco, all'anima che ha. Non dobbiamo dimenticarci questa cosa qui, perché noi stiamo parlando di come noi ci risentiamo rispetto al videogioco, noi videogiocatori andiamo a puntare il dito contro, però stiamo parlando sempre della natura del videogioco stesso. Quindi analizziamo prima come è fatto il videogioco e poi arriviamo a criticare eventualmente quello che è successo. Che in questo caso è come prendere una persona, vi ripeto, che ha un derivato più di carattere, magari una stronza, andiamo a criticare perché non ci piace il suo comportamento. Però andiamo a vedere la natura di quella persona. Non dico che la giustifichiamo, però diciamo è fatta così, quindi o la prendi così com'è, perché incazzarci più di tanto non serve, perché tanto l'inguacchio prima o poi questa persona stronza lo farà, si comporterà in un certo modo. Ecco, per me Mass Effect è una persona, in questo caso, che si è comportata in un certo modo secondo la propria natura, che è quella del videogioco stesso. Però adesso glielo stanno cambiando la natura, perché comunque ci stanno rimettendo mano. Sì, nel senso, ma però è sempre stata quella la sua natura. Cioè, il videogioco è sempre stato così. Adesso che c'è possibilità di poterlo fare, lo stanno facendo. Beh, è sempre stato, non lo so. Che lo è adesso. No, nel senso, intrinsecamente, potenzialmente. Sì. Questo che sto dicendo io. E non mi stupisce, quindi, se una cosa tu te la permette di poterla fare e poi alla fine la fa. Io dico, ok, è la natura stessa di questa entità che ti permette di essere così rimodulabile, eccetera. Oh, se qualcuno lo fa è perché evidentemente glielo permette anche l'opera stessa. Un pittore, una volta che ha fatto un quadro e lo ha esposto, non lo va a ritoccare, perché il quadro è finito, è compiuto in sé, anche se potrebbe farlo, per intenderci. Ma metti caso, è dentro una teca, è dentro un vetro, è un pezzo unico, eccetera, non lo va a ritoccare. Il videogioco invece lo puoi fare in corso d'opera, lo scarichi, sono dati, voglio cambiare, voglio migliorare, voglio mettere il bug, voglio mettere le uccisioni tipo Skyrim, quindi hanno migliorato le uccisioni, per dire. Giustamente, cioè, dicendo che non è finito, è ancora in corso d'opera. sì, ma potrebbe essere in corso d'opera anche Monkey Island, potenzialmente, adesso che lo possiamo scaricare su hard disk. Mettiamo caso che Ron Gilbert, chi per lui, come si chiama la società, LucasArts, sì. Dica ok, cambiamo il finale di Monkey Island, eccetera. Lo possono fare, poi se tu sei libero di farlo o meno, ma adesso lo possono fare. Sì, il fatto di poterlo fare non giustifica il fatto di doverlo fare, questo no, perché però il fatto di poterlo fare comunque c'ha magari una cultura più strettamente narrativa, quindi molto lineare da quel punto di vista, che comunque magari potrebbe anche non accettarlo, no? Ma Ron Gilbert stesso probabilmente, certo, non lo farebbe mai, no? Nel senso. Ma certo, ma è interessante poi vedere come si comporta l'autore nei confronti della propria opera. E questo vi fa pensare a quanto l'autorialità di Mass Effect possa essere molto fluida come realtà, se tu vai a ritoccare il finale addirittura del videogioco. Cioè, c'è proprio la base, quindi una debolezza, se vuoi. Sempre perché comunque BioWare in questo momento si rende conto di aver fatto, cioè di aver peccato in qualche cosa, quindi si rende conto che ha o non ha fatto quello che avrebbe dovuto, quindi ha lasciato dei buchi che adesso si sente in dovere di andare a colmare, se no però sì, ma poi quindi arrivano sempre a accendere le macchine, insomma, ma magari sentiamo pure Stefano, però nel senso con la Tassoni si è no è che fondamentalmente, se vai a vedere, in realtà non è un finale alternativo, non è un finale diverso, l'allungamento per chiarire gli aspetti del finale, quindi ritorniamo al discorso dell'interpretazione, cioè significa che siccome che voi non lo capite, ve lo spiego io. Vi siete incazzati talmente tanto, avete fatto le proteste, le petizioni online, roba già, perché non lo avete capito. Allora ve lo spieghiamo. Quindi torniamo un po' al discorso. Pensate una cosa, e non so se avete presente Evangelion, Neon Genesis Evangelion, la serie TV. Sì, io non ho capito neanche i primi 10 fotogrammi, quindi. Ecco, allora, il finale è assurdo, sì. Sì, ecco, il finale è assurdo. Io da grande fan ho apprezzato anche quel finale. In seguito alle pressioni degli stessi fan è successa una cosa simile, cioè l'idea che hanno il regista ha creato altri tre OAV, quindi altri tre film, diciamo, che riprendevano il cartone animato e cambiavano il finale, dando un finale che era, diciamo, più coerente con la narrazione, meno staccato, meno onirico. E quindi in realtà è una cosa che... Questa che è già successo, in questo caso però ha proprio nettamente cambiato il finale l'autore, però comunque non ha creato un precedente questa cosa, cioè non è che il fatto che il finale nel caso di Evangelion sia stato cambiato, allora anche i finali dopo degli altri cartoni animati sono stati modificati. No, però è successo, ha fatto un po' reboot, però se tu vai a vedere, voglio dire, allora, reboot, però. Su Lost hanno fatto un finale su Lost che a me personalmente non è piaciuto, nonostante avergli dato una mia interpretazione, però poi tutta la gente dice ah sì sì bello, perché se tu leggi il libro che ti spiega, come leggi il libro che ti spiega? Cioè il problema è che noi siamo arrivati a questo, capisci? Al di là del discorso che fa Luigi, che romanticamente tra virgolette è anche bello, e lo condivido, non totalmente, perché io proprio ho purtroppo forse una visione più monolitica, più lineare per certe cose, però comunque lo apprezzo. Qui il problema è che non è più neanche il fatto di una cosa in divenire o via dicendo, qui si tratta del fatto che la gente non capisce. Beh, ma non capisce, da dire anche che può essere colpa dell'autore. E questo, che come dice Marco, dice ok, BioWare si è accorta di aver messo, cioè, che ci stanno dei buchi qua e là, e quindi probabilmente qualche cosa, oppure può essere cartata, insomma, vabbè, però oppure può essere colpa del pubblico, perché il pubblico oramai è abituato con gli spiegoni, e questo è il problema. No. Beh, sì, abituato con gli spiegoni, però c'è da dire anche che è un media giovane, tra virgolette, quello dei videogiochi, quindi non si può pretendere che la critica, non solo quella dei professionisti, sto dicendo la critica, cioè il ragazzino che gioca, magari non ha alle spalle tutta una serie di elementi per valutare il videogioco come li ha il ragazzino che ascolta un disco o che si vede il film, perché magari ha un'esperienza pregressa molto molto limitata, nel caso del videogioco, che appunto, che essendo media giovane risente di questi problemi, quindi magari la questione è che, come dire, queste critiche sono anche fatte da persone che non sono ben in grado di capire quello che gli è stato dato. È questo, cioè, nel senso, a me personalmente BioWare può fare, per me può fare quello che vuole, cioè a me possono anche pubblicare altri 10 finali alternativi, a me, come dire, affari miei, nel caso che me li vado a vedere o che, cioè sta a me decidere, d'altronde li mettono anche sui film, sì, sono... cioè dico, sta a me decidere qual è, io me li posso prendere in visione e dire secondo me il finale migliore è il terzo che mi hanno dato a disposizione, poi oppure dire no, io invece sono per una cosa più standard, quindi preferisco il finale che c'era, il finale originale, per dire. Quindi insomma, questo secondo me sta al singolo individuo cercare di prendere una posizione, cercare di darsi un certo modo di vedere questo media, il media videogioco in generale, e accettare le cose come ti vengono poste, però facendole, cioè, senza andare a fare, io dico, per me sono tutti liberissimi di fare le petizioni, di andare a rovesciare le macchine di quelli di BioWare eccetera eccetera, senza adesso scherzo, cioè nella parte finale lo dico, anzi, senza esagerare, anche noi volendo, no, dico senza esagerare, chiaramente, finché rimane una critica fatta da molte persone, io dico va bene, cioè se volete criticarlo magari sono anche d'accordo con voi, però cercate di vederlo al di là del, come stava dicendo anche, come stavi dicendo Luigi, cercate di vederlo anche al di là del finale, cioè godiamoci tutti l'esperienza del videogioco, perché, ma su questo sono d'accordo, sono d'accordo con te, però io penso mo, al di là del fatto che i giochi come Mass Effect hanno 15 finali, no, perché tanti giochi, no? Ma 15 Hill, finali tra virgolette, vabbè, okay, poi Silent Hill pure c'aveva 6-7 finali, sì, sì, sì, quindi sì, bene o male, no? Ok, però alla fine, in un modo o nell'altro, al di là del perché andava a finire in una certa maniera piuttosto che un'altra, comunque c'è una chiusura, un senso, un significato, tu alla cosa gliel'hai voluta dare. Quando tu però tieni tutto così open, e c'è il rischio che da oggi in poi le cose rimangano un po' open, alla fine si perde proprio anche il senso che tu come scrittore del gioco comunque volevi dare all'opera. Non è il caso, abbiamo detto, di Mass Effect nello specifico, perché qui stiamo parlando dello spiegone piuttosto che di un altro finale che magari piacerebbe, perché insomma le proteste nascevano dal fatto che non c'è stata la battaglia finale, no? Non c'è stata sta battaglia finale. Finito l'Harbinger, perché quello è il grande nemico. Si attaccavano le cazzate. Sì, sono da fanboy. Ci sono le cose molto da fanboy. Cioè, senzionale, com'è il... Oh, ragazzi, non spoilerate. No, non vado nello specifico. Però dico, come si chiama il personaggio che c'era nel secondo? Quale No, poi il personaggio che c'era in quel videogioco Bing, un po' genere. Sì, ok, diciamo, no, perché che fine l'Araldo è l'Araldo, bravo, ok, non mi veniva, perché l'Araldo non c'è più, allora che fine ha fatto, ma che c'è, cioè, nel senso, che frega, da attacchi alle cazzone, nel senso, quello era contestualizzato nel secondo, poi voglio dire, no, nel senso, ma diciamo che ci sono delle cose, delle critiche che si possono fare sul finale di Mass Effect, di Mass Effect, Mass Effect 3, perché praticamente ci sono più che altro delle promesse fatte da BioWare che non sono state mantenute. Perché? Perché BioWare ci ha praticamente detto che le scelte fatte durante i primi due capitoli avrebbero comunque avuto delle ripercussioni nel terzo capitolo, che in effetti è così. Però in realtà queste scelte sono state trasformate in poi quando Luigi lo giocherà, lo vedrà, non sto spoilerando niente perché si vede da subito praticamente. Queste scelte, la maggior parte, sono diventate dei numeri statistici. Praticamente per combattere i razziatori bisogna arrivare ad una certa potenza di fuoco, diciamo, potenza militare che è espressa in numeri. Io sto problema, ce l'ho, persi tutti i salvaggi. Per cui da in default sto cazzi tuoi. E non potrai fare niente. Allora, quindi che cosa succede? Che le missioni fatte durante il primo e il secondo, che poi sfoceranno nel terzo, i vari ritrovamenti di questo capitolo, diventeranno. Cioè praticamente porteranno ad inglobare nella forza militare ricercatori, scienziati, astronavi, flotte sotto forma di una potenza di fuoco. Ognuna c'ha potenza di fuoco, ne so, i Salarian 150, i reparti SOS 100, gli Asari 500, e fanno una somma. A seconda della somma che si ottiene si ha poi un finale. Ovviamente questo dice, ma tu mi hai fatto fare tutte queste cose, mi hai fatto immaginare che ci sarebbero stati degli avvenimenti che poi in realtà vengono lasciati un po' così in sospeso, perché poi diventa tutto quanto un semplice fatto numerico, e quello ha fatto un po' incazzare anche parecchio e questo è vero praticamente, perché ma a questo punto, scusa, non era meglio fare come si fa ogni tanto, cioè tu dai una serie di finali diversi in base a quello che hai fatto all'interno del gioco. C'è anche quello. No, io dico, c'è tutto. Cioè, io dico, nel senso, nel finale di il finale di Mass Effect è uno e basta. Non hai, come dire, il finale buono, il finale cattivo, il finale medio. Hai tanti finali. C'è. Non avendolo finito, non lo so, ma io dico, hai, cosa ne so, 5 finali diversi a disposizione. Senza spoilerare troppo. No, ma io non posso spoilerare, non avendolo finito. Luigi, quindi dico, ci sono dei finali diversi. Allora, praticamente alla fine, uno, ma cioè, alla fine, roba di sostanza. Ci si trova praticamente a fare una scelta, fondamentalmente. Cioè, queste scelte. Casey Hudson, che era uno dei produttori o sceneggiatori, adesso non mi ricordo, di Bio, ha detto che non sarebbe assolutamente stato un finale di tipo scegli A, B o C. Un finale tipo che troviamo anche in Deus Ex, sì, in Deus Ex, esatto, di Mario, esatto. Così, paro paro. La cui praticamente la potenza, diciamo, posso dire, il climax di queste tre scelte, poi dipende dal numero di forza armata che sei riuscito a portare avanti, insomma, nel gioco. Quindi se sei stato bravo, hai salvato tutti, hai fatto tutto, ci avrai un numero. Se invece non sei stato bravo, sei stato un infame, ci avrai un numero molto basso, e quindi saranno tre scelte catastrofiche. No, ma io non parlo di numeri, io parlo proprio di narrazione, cioè la storia del finale probabilmente, è sempre, cioè, la stessa alla fine, qualunque sia la tua potenza, cioè, di fuoco. Tra finale A, B o C, anche la potenza di fuoco massima è sempre la stessa, esatto, stesso, ma immagine, cambia un colore che poi vedrete, ok, cioè, ma io dico, ma se invece loro, come stavate dicendo prima, hanno detto in base alle vostre scelte, cioè se loro stavano focalizzando sulle scelte che ha fatto il giocatore nel gioco, forse sarebbe stato meglio dare un finale come dire, che seguiva le scelte del giocatore, non tanto la potenza di fuoco, meglio che infatti, magari integrava le due cose. È quello che ha fatto imbestialire anche. Sì, vabbè, ragazzi, però, cioè, Luigi, non so se tu. Luigi si è tappato le orecchie, quindi non sta sentendo. Se sarai d'accordo con me, però, voglio dire, David Cage ci ha insegnato che è veramente ancora quasi impossibile, ma anche produttivamente, riuscire a fare una storia realmente e realmente interattiva senza perdere pezzi per strada, perché comunque quando si scrivono storie come quelle di Heavy Rain e all'ennesima potenza come quelle di Mass Effect, cioè stiamo parlando di centinaia se non migliaia di pagine, di copioni, cioè veramente forse qualcosa di assolutamente improponibile. Riuscì a tenere anche graficamente, quindi come schema, la narrazione in piedi senza perdere buchi. Io penso che sia veramente un qualcosa, diciamo, di disumano. Le scelte le avrebbero, quindi, potute implementare, sì, di più. Sì, però, sì, però il lasciando anche, sarà che so io che qua non vedo proprio questa necessità di dover per forza. No, il problema non è la necessità. La cosa è che quando tu, BioWare, mi dici e mi poni l'accento su questa cosa e poi non la fai, allora il problema è tuo. Vabbè. Perché se non lo dicevi, probabilmente la gente non si sta rimanendo. Ma questo, cioè, voglio dire, pure quando ho comprato il VIC-20, mi facevano vedere lo spot col gioco del calcio del 60. Hai capito? E poi quando ho visto che non c'era mi sono messo a piangere, cioè, voglio dire, non c'entra niente, no? Nel senso che si sa che quelli ti dicono una cosa più o meno magari un po' marcata, è pubblicità, lo sai tu, quello è il tuo senso critico, lo devi sapere, e quindi bene o male quando lo vai a giocare non ha senso critico, quindi lo vai a giocare per altri motivi, vai a giocare perché ti piace il tipo di gioco. Che me la dimentico, una domanda, una richiesta più che altro, visto che c'è stata visto che comunque c'è questo DLC che andrà un po' a espandere il finale, immagino che ci saranno delle cutscene in più, delle righe di dialogo in più, viene ridoppiato, esatto, no, infatti è quello che tu sappia, ma ci sono delle se hai sentito, visto che stai un po' più nell'ambito rispetto a noi, se gli attori sono stati richiamati, se i doppiatori sono stati richiamati, perché cioè mi sembra strano che loro esce, quando è ad agosto che esce gli LC? Sì, agosto, sì. Agosto. Quindi la notizia è uscita a marzo, quindi aprile, maggio, giugno, luglio, quindi presumibilmente in 4 mesi devono fare tutto quanto. Ma pure gli altri DLC degli altri capitoli sono stati doppiati, quindi cioè... sì, ma perché l'avevano fatto da quel dì. Ma non è detto, non è detto questo che dovrebbe essere stato fatto adesso. Come la fanno a farlo in 4 mesi? O magari è già in, diciamo, in cantiere, e quindi semplicemente hanno semplicemente detto, annunciato un DLC che comunque era già stato fatto, francamente. Non so se Luigi c'ha qualche notizia di questi attori che sono stati richiamati, i doppiatori che sono stati richiamati. Non ho la più pallida idea, ma posso presumere che sono stati richiamati tranquillamente. In 4 mesi penso proprio... che ce la fa, sì, vabbè, a parte che sono sì, 4 mesi c'è, però vabbè, quando si riuniscono devono fare due animazioni, sarebbe interessante saperla bene sta cosa, magari lo chiediamo, non lo so, chi possiamo chiedere? Possiamo chiedere a BioWare, gli telefoniamo. BioWare. Vabbè, ma insomma, secondo voi i fan hanno fatto bene a fare proteste? Secondo me no. Luigi? Non lo riesco a moralizzare come cosa, cioè se l'hanno fatto c'è un motivo. Giustamente lui non può entrare più di tanto in merito, perché non avendo giocato, magari non so, a agosto uscirà per caso e comincerà a spaccare macchine. Secondo me Luigi non gliene frega proprio niente questa cosa. Mi comporterò come con BioWare, rifacciamo la puntata, integriamoci le mie considerazioni. Faremo una pace alla puntata. Sono 20 minuti di bestemmie, Luigi. Che bestemmie. 4 mesi dopo, mettiamola la scritta. Registro. Stefano? No, io personalmente, se a loro andava di protestare, buon per loro, tanto. Cioè nel senso, la protesta vale protesta, cioè, noi siamo sempre con chi protesta. No, nel senso, cioè, se loro credono in questa protesta, ok, l'importante è che sia fatta per migliorare il prodotto e non per svilirlo, tra virgolette, cioè che non risulti che sia una protesta fatta da fan veri, che ci tengono che il prodotto sia ben realizzato, che hanno investito dei soldi, contribuito, eccetera, eccetera, e che non sia semplicemente una forma di rompere le palle alle software house perché va di moda, perché tanto adesso facciamo causa a qualunque cosa, e io sono il primo, cioè io sono noto ipercritico, quindi sono il primo, però in certi casi dico, vivi e lascia vivere, ecco. Okay. In questi casi. Quindi secondo voi, secondo alcuni hanno fatto bene, secondo alcuni no, tipo Marco. Ah, secondo me non hanno fatto bene a fare il casino, perché comunque uno può dire, vabbè, secondo me ci sono delle cazzate dentro, però addirittura fa tutto quello che hanno fatto, secondo me più da fanboy, cioè sono andati a trovare il pelo nell'uovo, perché poi quando Ma quindi sono capaci che gli vanno sotto casa del tizio. Sì, capito, ma con il fiaccole, punto è dire, guarda, cioè, ho trovato questa cosa, diciamo, questa cosa qui che avete messo, non l'ho capita, e in effetti posso anche giustificare il fatto che certe cose non si capiscono, che ci siano dei buchi, delle cose, però addirittura pretendere cambiamenti, cioè pretendere proprio, è questa cosa che mi ha dato fastidio, perché uno c'è critica, può criticare perché è ancora permesso, però insomma arrivare ad eccessi mi sembra troppo. Al di là di questo, comunque hanno protestato e ribadisco la domanda finale, quindi risentendizzo il fatto che comunque c'è la gnocca, la domanda finale. Non vi sembra strano il fatto che comunque abbiano fatto tanto casino veramente per questa questione del finale, che insomma può avere il tempo che trova, perché magari comunque, cioè nel senso, non mi sembra veramente una cosa così eclatante quanto il fatto che comunque spesso e volentieri si giochi ma il problema è che con escano buggati, addirittura Mass Effect sul PlayStation 3 c'è avuto un problema pure con la patch, cioè nel senso che la patch l'ha reso praticamente ingiocabile, cioè quella è un altro bug, però c'era il bug quello della Crimson Academy sulla Xbox, che praticamente c'era la missione sulla Crimson Academy buggata, cioè non era possibile giocarla. Quindi vedendo qual era il problema si sono accorto che mancavano righe di codice proprio sul DVD, ma su DVD italiani però, perché nel resto del mondo i problemi non ce l'avevano, quindi hanno emesso un DLC, siamo rubati pure i codici, hanno fatto un DLC con la missione scaricabile, quindi hanno fatto prima scaricare il DLC con la missione gratis e facciamo prima, perché praticamente hanno proprio stampato tra virgolette, masterizzato i DVD male, quindi questa era una cosa molto bella. Il problema di Mass Effect è che riuscire a capire dove i fan si sono incazzati, cioè dove arriva l'incazzatura per i bug e dove finisce l'incazzatura per i bug e dove inizia l'incazzatura per il finale. Non ci si sono neanche soffermati più di tanto, perché io ribadisco, cioè fai la patch per Skyrim e i draghi volano al contrario, cioè ragazzi, cioè qui stiamo sarà bello quello che vi pare, tutto influire, roba del genere, qui stiamo parlando veramente di cialtroneria, di mancanza di rispetto pure nei confronti di chi comunque acquista un prodotto. Poi dopo è chiaro che stanno a parlare dei progetti, quindi dei codici di programmazione infiniti, quindi ci può anche stare che possano mancare dei pezzi, ma che addirittura, oltre al fatto che io il giorno stesso che ho comprato il gioco già devo scaricare una patch di 2 giga e via dicendo, alla fine la patch stessa mi peggiora anche determinati elementi, io penso che veramente qui stiamo all'orlo del ridicolo, e lì le class action ne fanno, capito? E fanno sul finale Mass Effect. Ma scusate, prima invece, adesso vi faccio un'altra domanda, e quando invece prima non esistevano questi problemi, le patch, esatto, e com'era la situazione? Non li facevano gli errori? No, ma in realtà poi i bug c'erano, cioè i glitch, sì. I bug sono sempre stati. Perché invece adesso ci incazziamo tanto su questi bug? Poi togli anche il fatto del prezzo, più o meno paghiamo i giochi per Super Nintendo avevano lo stesso prezzo, cioè se fai la conversione lire euro più o meno siamo intorno alle 140.000 lire, 150, una cartuccia per Super Nintendo quanto la pagavi? 120, 150, adesso vado sì. Però scusa, Stefano, sì. A memoria, poi magari mi aiuta anche Luigi, che ovviamente siamo un po' più grandi. C'ha più memoria. Siamo un po' più grandi e lui c'ha più memoria. C'ha più anni. Cioè, oggettivamente, al di là di glitch o qualche bug o roba del genere, ma tu ti ricordi veramente nel passato, quando non c'erano i DLC, giochi che erano parzialmente ingiocabili o che alcune parti non erano giocabili perché e quindi non erano magari completabili in determinate fasi? Io non mi ricordo sinceramente, io te parlo di missioni de Fallout dove praticamente, cioè nel senso, mi rimaneva il fatto che solo il principio che mi rimaneva la quest segnata e non la potevo finire, ma Dragon Age 2 è la stessa cosa, ma quanti ne posso dire, voglio dire, dei giochi che c'hanno che c'è fare caso, una compulsione, no vabbè, ma cioè voglio dire, io sto giocando un gioco, c'è una quest, perché no, quest devo... mi rimane aperta, mi rimane aperta, chiudetemi la quest. Scusami, stai parlando però di due prodotti che li accomuna soltanto il fatto che sono videogiochi in sé, ma hanno due caratteristiche differenti. La prima è la complessità del codice implementato, che quelli del tempo non avevano la stessa complessità che hanno quelli di oggi, sia come quantità di informazioni che porta un DVD e quindi la gente che ci lavora all'interno e tutto quanto, sia per quanto riguarda il supporto, perché quello che poteva contenere lo spazio di una cartuccia o di un floppy disk, dir si voglia, a parte che era limitato, ma era molto più facile controllare tutte le variabili che erano all'interno, quindi fare un lavoro di eliminazione bug molto più efficace. Soprattutto non intervenivano tante persone, erano quelle poche che lavorando sul codice lo rendevano stabile di per sé. Era molto più semplice, quindi tu, che tu avevi un prodotto finale che non poteva sbagliare, fondamentalmente era molto più facile che non sbagliasse. Anzi, era difficilissimo che sbagliasse, mettiamola così. Oggi invece sì, no. Però io ricordo giochi come Baldur's Gate, come Ultima 7, insomma, io non, cioè veramente è vero quello che dici. No, ma io dico, senza tornare troppo indietro, pensiamo alla PlayStation 2. Alla PlayStation 2, alla prima Xbox, comunque non c'erano anche patch. Anche PlayStation 1, No, anche davvero dico, senza proprio, teniamoci molto vicini. Cosa ne so, un Final Fantasy, cosa è uscito? Il 12 per PlayStation 2, non mi ricordo adesso. 16, sì, ok, 12. Il 12. È un gioco molto complesso, sicuramente, è un gioco enorme, come dire, che avrà una quantità di codice quasi quanto quella dei giochi attuali, sicuramente un po' di meno, però comunque una complessità elevatissima. E com'è che non c'era, cioè, come dire, aspetta, nessuno si è mai lamentato di... No, però scusami, cioè, stai, il problema è che la complessità non la puoi adesso vedere nella sua vastità come era Final Fantasy XII, perché gli elementi, la struttura architettonica del videogioco era molto più semplice rispetto a quella di oggi. Le missioni erano lineari, non c'erano le linee di dialogo, quattro linee, o teneva di conto le azioni che avevi fatto prima rispetto a quelle dopo, e quindi cambiava lo scenario, come i personaggi non giocanti si rapportavano con te. Cioè, gli algoritmi, a livello di quantità che se ne presentavano, entravano molto meno in conflitto fra loro, perché erano molto più lineari. Cioè, veramente. Scusa, ma ad esempio, sì, Final Fantasy VII, che comunque ha tutte queste cose che mi hai detto, cioè appunto delle tue azioni influenzavano il mondo, avevi la possibilità di. Parzialmente. A livello di gameplay, no, parzialmente, e poi più in là, cioè dico, andando ancora avanti, comunque, cioè, sono giochi che, ok, in seguito sono stati patchati, hanno corretto dei bug, però comunque, il discorso che sto facendo io non è. Era meglio prima o è meglio adesso? No, dobbiamo togliere le basi. Io sto solo, esatto, sì, mi sto solo interrogando sul perché. Esatto, cioè, perché adesso che c'è questo mezzo, che dovrebbe essere un mezzo per, cioè, comodo per migliorare l'esperienza di gioco. In certi perché casi i giochi costavano 2 milioni di dollari e comunque, voglio dire, alla fine, pure se vendevano 1 milione di copie, erano ricchi e famosi. Oggi il gioco costa 50 milioni di dollari, se non di più, e chiaramente non soltanto nei tempi devono restare, ma devono stare anche, voglio dire, in determinate operazioni commerciali, in determinate scadenze del periodo dell'anno di vendita. Insomma, per carità, è chiaro che ci sono dei problemi, però voglio dire, io tante volte vedo, c'ho la sensazione, ecco, proprio andiamo a Bethesda, no? Sì. Cioè, il fatto che Bethesda programma comunque i suoi giochi su un framework già predefinito, no? Che è sempre quello, migliorato ovviamente negli anni, e che probabilmente, anzi, è palese, insomma, che abbia dei difetti anche dal punto di vista strutturale, e che però, voglio dire, loro sì, cercano di metterci le pezze qua e là ogni tanto, però ogni volta che esce il gioco ristiamo da capo a 12. Certo, Skyrim è stato molto meno buggato di quanto è stato Oblivion, per dire, perché beh, Oblivion no. Abbiamo allora, visto... guarda, a livello di patch, Skyrim è il gioco più patchato da Bioware. Sì, vabbè, questo non se lo decide io. No, l'ho detto loro. Così a sensazione mi sembrava che fosse uscito leggermente meglio. Cioè, Oblivion, lo ricordate, no? C'era gente che si accartocciava dentro le porte, insomma. No, quello perlomeno quello potevi comunque. Sì, sì, vabbè. Beh, allora a questo punto non conviene a noi giocatori, come dire, pensarci prima e aspettare. Cioè, dico, visto che se tanto sappiamo che il gioco... Sì, infatti aspetta. No, ma dico, al di là questo in generale, forse non è più utile... una forma di, non è neanche boicottarli, perché è una forma di, cioè, nel senso, tu dici, guarda, allora io sono consapevole del fatto che adesso ci sia un modus operandi per certi giochi per i quali escono magari eventualmente con dei bachi di qualche tipo. Io, cioè noi giocatori, adesso aspettiamo. Quando voi li fate uscire, come dire, neanche, io non dico il gioco finito, ma correggendo i bug più grossi, allora noi lo acquistiamo. Cioè, non conviene piuttosto fare. Vuoi scherzare? Cioè, e giocarlo al primo giorno? No, ma infatti sembra uno scherzo, ma in realtà c'era, è ragionevole come discorso il fatto di non di aspettare di comprare. C'è gente che perché si compra al lancio? Perché crea una comunità in cui ci si può confrontare, che col passare del tempo andrà a perdersi, a morire, e quindi si perde anche il senso di socialità che crea il gioco al lancio. Se ne potremmo lanciare la community dei 12 mesi dopo. Sì, sì, sì, sì, si può mettere d'accordo, dice, sì, vabbè, esatto. Però ovviamente sappiamo che sono fatti così, ma animali temporali, quindi sentiamo lo scorrere del tempo e quindi cerchiamo di prendere la novità subito, di averla, anche se magari non la giocheremo mai. Però sì, ma pure c'era... quella è una compulsione, pure quella, perché al di là del discorso i giocatori sono compulsivi, i giocatori sono compulsivi, sono gli esseri fondamentalmente compulsivi, dove appena hanno la novità eccetera è anche un po' pecoroni, diciamo la verità, ma perché sì, vedete, a parte il finale di Mass Effect, alla fine si fa andare bene tutto, cioè, senso... anche il DLC appena è uscito, insomma, sì, quello del esatto. Protean, insomma, è veramente quello, poi su Mass Effect però 3 si è incazzato per quello, sì. Sai che sto pensando? Guarda, io sono. Io accetto. Scusate, stavi parlando. No, vai. No, io dicevo soltanto, io accetto molto più un finale in cui non devo fare un cazzo. Io mi vedo la fine di quello che ho fatto. Come può essere, che ne so, un Metal Gear Solid, per dire, in cui non interagisco il finale, mi vedo questa cutscene finale, sta a posto. Che non, per esempio, un Silent Hill, nel quale il finale, ma questo è un altro discorso, ragazzi, quindi puoi pure tagliarlo poi, nel quale praticamente non so perché ho determinato un tipo di finale, cioè ho giocato 10 ore, 12 ore, quelle che sono, e che ne sapevo che dovevo andare a prendere questi quattro elementi. Ah sì, questo è vero. Questo per è vero. Poi determinare quel finale lì, cioè io non sapevo che dovevo prendere la coppa, la candela, quello o quell'altro per poi avere il finale buono, ma per un motivo molto semplice, perché non c'è relazione logica tra quello fare e il finale stesso. Quello che fa da fanboy pure quello, cioè, nel senso che veramente quello non lo sopporto. Oppure perché arrivo al finale UFO, che a metà gioco io ho finito di giocare perché ho fatto dei metri di azione che mi hanno portato al finale UFO, cioè mi hai troncato 5-6 ore di esperienza, perché il gioco finisce 5-6 ore prima per qualcosa che non ho capito perché. E solo dopo c'è l'Ever Blaster, no? quello è ridicolo. Dove gli gira a sparare a tutti con l'altro. Questo vabbè, è ridicolo. Sono d'accordo con lui. No, questo è ridicolo. Questo dico, no, non lo accetto, perché è molto lezioso da parte tua, Software House, pensare che a me possa divertirmi una cosa del genere. Se non mi dai una logica nel capire il perché del finale, no, ma c'è chi si diverte. Pure a me piace sperimentare, vedere il giro del gioco se mi piace. Sì, però in quel caso, come dice Luigi, in effetti, se tu non lo sapevi. Cioè, non lo potevi sapere, ma quella è una cosa molto alla giapponese, però cioè, nel senso, si piace soffrire, quindi ricordiamo, cioè, nel senso che erano proprio cose chicche tutte loro, che alla fine si capivano da soli, e che noi di conseguenza o di riflesso, ovviamente andando a leggere sulle riviste, per sbloccare il finale potete fare qui, cioè masticazzi, no, anche un pochetto, no, giapponese, con tutto rispetto. A me un po' piaceva, forse una mia forma di masochismo, però infatti dalla seconda puntata di ideologia videoludica tu non ci sarai più. Io sarò a pestarmi le balle mentre gioco per la su 15ª volta per scoprire il terzo finale segreto di tale gioco, ecco. Esatto. No, non lo so, quindi a me anche questo non dispiaceva, tutto sommato. Sempre che fosse, appunto, come stavi dicendo, Luigi, sempre che la cosa deve avere una logica, cioè deve essere integrata. Beh, certo, come minimo, esatto. Poi puoi farmi 10.000 segreti, 10.000 cose, sta a me decidere se voglio passarci altre ore oppure mollarlo e passare un altro gioco, ecco. Se mi dai la possibilità, io l'accetto volentieri. Sì. L'importante è che una cosa non precluda l'altra, ecco. Chiarissimo. Esatto, che sia un'esperienza fruibile, sempre fruibile. Beh, il giocatore si basa su questo. Se non riesce nemmeno a fruirne dell'opera, zio, se lo sta gambizzando. Voi ragazzi, avete giocato mai Project Zero? Project Zero è quello del fotografo, sì. Cioè delle fotografie. Sì. Fatal Frame, sì, ne avevamo parlato anche sul Retrocast. Sì, io ho trovato molto, molto rispettoso del videogiocatore i videogiochi di Project Zero, perché hanno quella sorta di linearità che si sviluppa, quegli stati di tensione e tutto, quella narrazione che ti fa rendere conto molto di come costruisce la storia, con dei finali molto belli. Io ho amato in particolare il 2, non so se avete giocato, Crimson Butterfly. Quello delle sue re... sì, però non l'ho finito purtroppo. Io là veramente mi sono commosso alla fine, nonostante sia un finale, ovviamente, come si può dire, molto molto lineare, molto legato alla trama, però costruito bene. L'ho detto, quanto è rispettoso questo finale del videogiocatore di quello che ha vissuto fino adesso. bella costruzione, semplice, niente di che. Mi piaceva ricordarlo, del soldo. Va bene ragazzi, io direi a questo punto, vabbè, c'erano altri punti, tre in pratica, ma li abbiamo un po' accorpati, un po' vanno bypassati. Mi sembra che ne abbiamo parlato comunque. Un commento finale. Sì, adesso voglio fare un commento finale. Adesso ve li facevo fare. Farlo adesso. Scappa adesso. Ma io volevo fare gli auguri in diretta a Marco Distruggitore, che è il suo compleanno. Ho strappato tutto, grazie, neanche l'orecchio, tanti auguri a Marco, grazie. Gualdi, anche detto il distruggitore, che compie 15 anni, giusto? 15 appena anni. 15 sui primi 15 anni, 15 anni e mezzo, perché lui va di troso. Esatto. Comunque sì, a parte questa piccola parentesi, chiedo perdono, ma mi sembrava doveroso. No, non hai fatto bene, hai fatto bene. Grazie. Io che sono amico suo, manco ci pensavo. Non è che io che sono amico mio ci pensavo. Vabbè, facciamo questo giro finale di opinioni, insomma, su questo argomento e magari anche su questa prima puntata. Partiamo da Marco, perché è il compleanno suo e cioè gli scappa. Quindi... scappa. Vai. Io voglio parlare di tutta la trilogia, innanzitutto. No, questa è faccia troppo lunga. Vabbè, allora parlo di... No, vabbè, a parte gli scherzi. Della trilogia. Il secondo è quello che, pur piacendomi di meno rispetto al primo, è quello che comunque mi ha dato più spinta a rigiocarlo, proprio perché c'erano diverse situazioni come quelle che piacciono tanto a lui. C'erano diverse situazioni che ho voluto sperimentare, quindi il personaggio, quello che il primo personaggio che è ignaro di quello che succederà, quindi possono prendere qualsiasi tipo di decisioni. Personaggio ultra cattivo, quello buonista, quello razzista. Cioè io ho dato delle personalità a 5 personaggi, me lo sono rigiocato, che sono tutte le personalità che deve chiamare, esatto, che... e quindi che tripolare, personaggi uomini, personaggi uomini, personaggi donne, una mucchiaro, no, già di Shepard, insomma. E me lo sono giocato, cioè veramente me ne sarei giocato anche di più, poi dopo l'ho cancellato, l'ho tolto dalle balle perché sennò sarebbe stato pericoloso. Eh sì, perché sennò invece, sei malato. Esatto. Il 3 invece è quello che mi è sembrato essere più stanco, cioè proprio mi ha dato un senso di generale di stanchezza, proprio come un poco fresco. È quello che adesso non sto rigiocando per la seconda volta, ma piano piano, tagliando tutte quante le subquest, anche perché voglio fare un finale di merda. E è un gioco in cui, rispetto agli altri, brillano più i singoli episodi che il gioco intero. Quindi le situazioni sono situazioni e personaggi sono più interessanti magari di tutta la storia del numero 3. Questo ho trovato di... non so poi... quando ci giocherete vedrete se... Ma si tromba sul 3? Sì, si tromba. Si tromba pure sul 3. Che poi sta cosa delle scene di sesso ridicole, magari poi ne parleremo in un altro episodio di Le dietro, migliori perché... sono quelle di The Witcher. No, le migliori sono quelle di Dragon Age, dove prendi il personaggio vecchio e lo fai scopare con un altro personaggio vecchio dello stesso sesso. No. Questa... la cosa bella è su Dragon Age 1 che c'è ovviamente il bisessuale. No, come si chiama la strega di amore? Morrigan, che è senza reggiseno, però quando tromba con te improvvisamente c'è reggiseno. Questa è la cosa più bella. Ma non è reggiseno, è proprio così. C'è una cosa qui. Cioè, quella si spoglia e dice: aspetta un attimo, mi devo mettere il giseno e le mutande. Anche. Quindi, scusa, Simone, tu invece non ci hai detto un tuo commento. Prima di che parliamo noi, dici il tuo. No, finite voi perché io vado sulla chiosa. Ah, tu ti metti proprio sulla chiosa. Calma, ok, calma, allora, calma. Luigi? E poi. Come ti è sembrato Mass Effect 3? Che cosa in particolare? Una conclusione sia sulla questione DLC sia sull'esperienza Mass Effect, ma anche su questo episodio di esordio, e anche sì, soprattutto, esatto. Sulla puntata sulla dietrologia che stiamo facendo, comunque sul podcast in sé, dico che è molto bello, mi piace questa libertà tematica o monotematica, se vogliamo, che ha, quindi di poter parlare così tranquillamente, sviscerare tutto quanto, mi piace moltissimo. E su Mass Effect non posso pronunciarmi perché è l'ultimo, non l'ho giocato, ho soltanto un bellissimo ricordo del primo, che mi ha fatto veramente innamorare, mi ha fatto capire di quanto io sia più versato verso la fantascienza che non verso il fantasy. E niente, sui DLC è c'è da pensare. Penso, ribadisco, il videogioco è un'entità molto fluida, fondamentalmente, essenzialmente fluida, e quindi sviluppa o induce a far sviluppare questa natura, sua natura, anche a chi la va a toccare, la va a programmare, ci va a lavorare sopra. Quindi non mi stupisco più di tanto, ci devo pensare meglio fondamentalmente a moralizzare il discorso su chi se la prende o su chi non. Per adesso c'è, lo constato e dico vabbè, vediamo dove andare a parare. Io continuo a giocare senza lamentarmi, fondamentalmente tutto qua. Bene, io mi associo a Luigi per quanto riguarda la parte di Mass Effect, più o meno sono concorde, nonostante sia io sia dispiaciuto di averlo vissuto in una maniera molto più difficile da un certo punto di vista, avendolo fruito dopo e avendoci giocato dopo, avendolo forse capito di meno. Questo è una cosa che a me dispiace, ma ormai, come dire, non ci posso più fare niente, la frittata è fatta. Quindi vedrò un po' come si evolve la questione, e se la questione soprattutto va degli strascichi con altri videogiochi, cioè se questo porterà in seguito magari a una prassi di ascoltare di più l'utenza e quindi creare appunto delle cose dopo, a posteriori, per un videogioco che è stato creato precedentemente, oppure se invece sarà solo un episodio limitato, come poteva essere appunto il DLC video a pagamento di Prince of Persia. Mentre invece, riguardo alla puntata, sono molto contento finalmente di avere uno spazio dove chiacchierare, dove esprimermi, dove dibattere sui videogiochi, su certi argomenti, ben organizzato, che un po' abbia quelle forme della chiacchierata tra gli amici, ma anche la chiacchierata da appassionati, da persone che ci tengono non dico del settore, ma del settore come videogiocatori, ecco. Parlare tra videogiocatori seri in una maniera ben organizzata, quindi seria è una parola troppo forte. No, seria per queste cose deve essere sempre un gioco, se no come tutte le trasmissioni Italian Podcast Network, diciamo. Esatto. Diciamo che noi abbiamo portato la bellezza estetica del retrocast, cioè nelle nostre persone, e che esatto. Ci siamo uniti con la qualità, con le capacità, con l'ordine, la disciplina tipiche di Italian Podcast Network. Questo ha creato, diciamo, una patch. Esatto, una patch. Ci siamo baciati. Noi siamo, appunto, noi portiamo le donne, come essendo noi così, e ce le prendiamo. Essendo noi così belli esteticamente, voi portate un posto bello dove e noi mettiamo la casa. Esatto. No, scherzo, no. Quindi insomma, sia da videogiocatore che da ascoltatore, sono contento e ringrazio per la possibilità. Insomma, bisogna dare credito a chi ha avuto l'idea, quindi a Simone e a Marco che hanno concepito, diciamo, questo episodio, questo podcast più in generale. Guarda, devo fare il modesto, per la prima volta nella mia vita, in realtà l'idea è stata di Marco e se ne prende la paternità, poi chiaramente abbiamo le conseguenze, anche le conseguenze, l'abbiamo poi sviluppata. Io, guardate, per quanto riguarda il discorso BioWare, Mass Effect finale o non finale, non lo so, io ho una visione un po' più radicale per certe cose, e il bello probabilmente di questa trasmissione è che ogni puntata non uscirà mai con una soluzione, nel senso che non avremo, ed è anche il motivo per cui la facciamo, in realtà è anche il fatto del dibattito, no? Il fatto di poter discutere ed avere opinioni diverse, ma magari in alcune cose ci saranno punti di incontro, in altre probabilmente no. E infatti io comunque, per quanto riguarda il discorso nello specifico, penso che l'autore in generale, qualsiasi sia e per qualsiasi tipo di mezzo lo faccia, fa l'autore e il pubblico deve fare il pubblico, ma proprio perché comunque hanno delle esperienze, hanno delle capacità, delle percezioni assolutamente diverse di quello che stanno facendo da una parte e quello che stanno usufruendo dall'altra. Quindi probabilmente tutta questa ricerca ossessiva del feedback da parte delle produzioni è sicuramente per loro produttiva da un punto di vista finanziario, ma è sicuramente veramente improduttiva dal punto di vista della qualità. Io spero che un giorno BioWare, anche se sai quando si prende una china è sempre difficile tornare indietro, ritorni ad essere quella società di produzione di videogiochi che sfornava veramente titoli di grande qualità, come in realtà lo è stato Mass Effect 1, che già soltanto dalla musica, da quel senso di mistero e d'atmosfera, di anche un po' d'angoscia che ti trasmetteva il primo, mi ha fatto veramente innamorare del video, di quel videogioco, tant'è che mi ha costretto a comprare una console che non avrei mai comprato altrimenti nella mia vita, che giustamente si è autodistrutta per lo sdegno, che si è autodistrutta a metà tra l'altro di Gears of War 2, non solo, ma c'era anche quell'altro gioco dell'immortale, Last Odyssey, sì, è vero. No, vabbè, comunque dei giochi ne stavo giocando, ma prevalentemente dei giochi ne hai sputtanati, diciamo così. No, ma a me piacevano tutti quanti. Sono sputtanati uguali, però. Sì, infatti. Ecco, spero insomma che BioWare ritorni all'epoca insomma di Knights of Old Republic e che non si accanisca anche lei insomma in questa ricerca ossessiva del feedback del multiplayer e tutti quegli elementi che probabilmente allargano il campo d'azione, il target d'acquisto per quanto riguarda i propri prodotti, ma allo stesso tempo insomma forse lasciano un po' più scontenti i fan di vecchia data come me, che insomma seguo la questione da diverso tempo. Per il resto insomma sì, anch'io sono molto contento di aver messo in piedi questa baracca insieme a tre persone insomma che sanno il fatto loro, perché chi gioca da parecchio tempo, chi è comunque nel settore come Luigi insomma, che ovviamente fa il redattore, quindi insomma sa di quello di cui sta parlando. In proporzione a noi che siamo dei cialtroni, sempre su questo, ne sapete molto molto più voi, giocate molto più voi rispetto a me, ve lo ti assicuro. Allora vogliamo il tuo lavoro. Non faccio il redattore, mando un articolo al mese in una rivista che c'è in edicola e basta. Vabbè, per il comunque... piacere proprio di sentirmi parte del videogioco, mi hanno riconosciuto questa cosa qui sentendomi parlare nei podcast, ma è assolutamente non paragonabile al lavoro invece di chi lavora davvero una redazione e si fa il mazzo, scrive articoli, anteprime, recensioni. Cioè, no, quindi no, vabbè, certo. E voglio ridimensionare, anche ovviamente la vostra, il vostro giudizio, perché è fin troppo lusinghiero. Ma no, io non lo voglio ma allora questo qui c'è altro. Sono sopravvalutato. No, tu sai Luigi che io ho la mia dichiarazione d'amore nei tuoi confronti sempre, ma anche perché in realtà una cosa di Luigi la posso dire e la dico tranquillamente, perché proprio stamattina insomma parlando con una persona che ascolta podcast di videogiochi gli ho annunciato così insomma di straforo che stasera avremmo registrato questa cosa, mi ha chiesto chi eravamo e quando ho detto che c'era Luigi era insomma si è dimostrato molto entusiasta, perché comunque una cosa è vera, ma al di là del quanto si gioca, quanto non si gioca, quanto si scrivono articoli o no, perché insomma io penso che più o meno tutti e quattro ne sappiamo qualcosa di quello di cui stiamo parlando. Il bello è mettere insieme un team di persone che sanno fare una conversazione strutturata e approfondita insieme, così come a Luigi piace fare e così come a noi da ascoltatori piace sentire da Luigi. Quindi questa è una cosa che Luigi insomma ti va riconosciuto, altrimenti insomma non ci sarebbe neanche stato il bisogno insomma di chiamare Luigi, no, piuttosto che Mario, insomma, per fare un esempio, che è tuo fratello tra l'altro. Oh, ma è nessuno che dice che è bello che c'è ecco, Stefano. Ecco, è quello che voglio dire, no? Lo dico io, che è bello che c'è Stefano, che c'è Simone. Non possiamo dirlo. È la prima ultima puntata che fai. Quindi. Ma il problema è questo: è che. Che bello che c'era Stefano nella prima puntata. No, c'è Stefano, c'è Simone, c'è Marco. Perché Stefano, Simone e Marco, in un'occasione specifica, si sono ritrovati a parlare anche casualmente di videogiochi in un podcast che era quello appunto di Stefano. E da lì è nata una simpatia che poi tra virgolette è quasi diventata un'amicizia, insomma, nel senso che è un po' un modo di quell'empatia lampo, così pam te scatta, io con questi qua ci devo fare qualche cosa altrimenti e poi Marco altrimenti do fuoco le macchine. Esatto. Marco ci ha avuto l'idea e l'abbiamo concretizzata. Io spero insomma che al pubblico questo podcast piaccia, perché insomma secondo me se no andiamo a spaccare le macchine, cioè il tema della puntata è spacciare facciamo le una petizione per far piacere il nostro no io dico che comunque attenzione, perché le nostre puntate si può pacciare, quindi se non vi sta bene, esatto, scriveteci, noi cambiamo. Cioè, al finale lo cambiamo. No, io l'unica cosa che dico è che di podcast di videogiochi ce ne sono tanti, e anche questi temi che abbiamo trattato noi oggi ne sono stati trattati in tantissimi. Il fatto di fare comunque magari una puntata monotematica su una specifica su un specifico argomento, che comunque sarà un argomento chiaramente dal punto di vista polemico per certi versi, è chiaro che permette insomma un approfondimento che magari in tanti altri podcast non si fa, non perché gli altri non lo fanno, perché non lo possono fare, perché comunque di solito la scelta di una trasmissione è quella di affrontare più temi. Noi abbiamo preso questa direzione qua, pensiamo insomma che sia la direzione giusta, poi insomma sta al pubblico. L'importante è che noi lo facciamo per farlo e per stare insieme e per divertirci, che è la prima cosa insomma. Poi se escono fuori anche informazioni interessanti per il pubblico, aspetteremo i feedback ovviamente alla nostra mail, che è dietrologiavideoludica@gmail.com. A questo punto ricordiamo anche il sito, che è dietrologiavideoludica.wordpress.com, che è fondamentale, non ve lo dimenticate. No, c'è anche la pagina di Facebook, che c'è anche su dietrologia videoludica. Adesso dovrebbe piano piano, quando uscirà il logo uscirà anche la pagina, che è tutto ancora in preparazione, tutto in fermento. Quando uscirà probabilmente l'episodio, già insomma tutte le cose saranno più o meno disponibili, compreso il Twitter, che magari vi diremo con più precisione più Twitter più segreto, ma con calma, intanto Twitter non lo usa nessuno. Quindi questi episodi li troverete ovviamente sul sito che ho detto prima, li troverete anche su www.italianpodcastnetwork.it, e Stefano, volendo, probabilmente, non so se lui sarà d'accordo, lo troveremo anche su retrocast.it, non so, penso poi, puoi anche dire di no e poi facciamo anche l'episodio. No, penso di sì, però il sito è retrocastpod.wordpress.com. Ah, scusa, vabbè, poi io sono ignorante, hai ragione. No, adesso ci organizziamo tutto la maradan, comunque tra Facebook, Twitter, email e WordPress, un modo per venire in contatto. Basta, ecco, se avete anche voi qualche tema di cui vorreste che discutessimo, spero di aver azzeccato tutti i verbi. Purtroppo la gnocca a proposito, se lo sappiamo, ma perché non gli fai finire una frase, povero Cristo? Perché non ha finito? No. Avevo detto il punto io. No. Scusami, ho concluso in un modo o nell'altro. Ho concluso, sei stato concluso. Sì, sì. Quale sarà il tema della prossima puntata, visto che ci stiamo, insomma, se lo sappiamo, vai lo vuoi dire? Guarda, sta qua. Non capisco, chissà chi l'ha scritto. Allora parleremo sempre di Mass Effect 3, tanto perché parlo. Però anche con Skyrim. non capivo, dice, cos'è questo gioco nuovo? Skyrim è un gioco nuovo. Chi è che l'ha scritta sta cosa? Skyrim, è giusto, Skyrim. È scritto giusto. Perché vuoi scrivere Skyrim con la SCA? Sì, certo. Ok, la prossima volta lo farò. Skyrim. Quindi Mass Effect 3 Skyrim, perché ovviamente a dispetto di presentazioni mirabolanti, campagne pubblicitarie con euro che si vengono buttate a strafottio, Mass Effect appunto e Skyrim sono usciti insieme ad altri giochi con bug che spesso hanno la capacità di minare la possibilità di finirlo, oppure comunque di giocarci e di corrersene nella totalità. Perché questi errori, che a volte, come ho già detto, impediscono di finire il gioco, sono praticamente ignorati dalla stragrande maggioranza della critica addetta ai lavori, che gli va a dare dei voti stratosferici. Esatto. Allora, quindi il tema della prossima puntata parte da un discorso che abbiamo già fatto in questa specifica occasione. Invece di andare a analizzare il discorso solo specifico dei bug, del perché vengono programmati, quanto è più complesso il codice e roba del genere, che con Luigi abbiamo detto questa volta, in realtà punteremo il dito proprio sul discorso della cosiddetta stampa specializzata. Quindi immaginate la scimmia dei Griffin, avrete presente quella che indica? Sì. I Volmonchi, esatto. Sì, perché in realtà, voglio dire, noi vediamo voti mirabolanti a giochi che in realtà escono fallati. Quanto realmente questi giochi vengono provati fino in fondo? Quanto un po' il discorso delle promesse di esclusive o sponsorizzazioni influisce nell'ambito di una recensione? Questo è un discorso insomma che anche qui non è nuovissimo, però insomma forse se riusciremo ad avere anche un ospite probabilmente avremo l'opportunità insomma di di affrontarlo, insomma, perché penso che ognuno di noi dal nostro, insomma, ha un'opinione. Poi è chiaro che il contenzioso è bello se si ha anche dall'altra parte la persona che può partecipare al dibattito e rispondere, insomma, a questo dibattito, no, Luigi, giusto? Assolutamente sì. Quindi tu sarai dei nostri il prossimo mese con questo episodio, insomma, sei pronto? Molto volentieri, molto volentieri. Quell'altro ragazzo che stava con noi, quello, lo chiediamo. Quello là è sardo, che beve la cedrata. Un Corretta. Po' di rispetto per la Sardegna, per la cedrata, ma soprattutto per il sottoscritto. Ok, ragazzi, grazie di tutto, grazie a voi per essere stati con noi e soprattutto grazie a voi per essere stati a questa piacevole discussione. Ci vediamo il prossimo mese. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.